Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Carissimi amici, bentornati a questo episodio straordinario e speciale di Dietrologia Videoludica. Diamo immediatamente tutti quanti i riferimenti con una prima novità, che è quella di www.dietrologiavideoludica.it, che è il nuovo sito che stiamo, anzi abbiamo quasi finito di allestire, nel quale troverete tutte quante le puntate, tant'è che da settembre il vecchio sito WordPress andrà a morire, quindi tutti quelli che sono abituati a seguire quel sito per ora con questo episodio troveranno gli episodi sia su uno che sull'altro, ma poi da settembre il sito definitivo diventerà questo .it. Ringraziamo Stefano Biggio, che ovviamente si è immolato per la causa acquistando il dominio, vabbè, ma poi in qualche maniera risolveremo. Trovate anche la pagina su Facebook e su Google Plus cercando ovviamente Dietrologia Videoludica. C'è anche il Twitter, che io ancora non mi sono imparato. Marco, tu lo sei imparato come Twitter? Sì, innanzitutto vi saluto a tutti quanti. Sto ancora smaltendo dell'alcol, per cui insomma sarò un po' sottotono. E poi perché ci manca una persona. Ma poi ne parliamo. Comunque il Twitter è Dietrologia Video. Attenzione, Dietrologia Video. Dietrologia video. No, video per entrarci. Quindi video, okay. Se cercate Dietrologia Video, oppure cercate, scrivete proprio Dietrologia Videoludica, secondo me prima o poi l'utente lo trovate. Detto questo, presentiamo chi è con noi in questo episodio speciale. Poi ovviamente parleremo anche di che tipo di episodio speciale è. Abbiamo chiaramente l'amatissimo, il super veneratissimo e il continua ad essere iconizzatissimo Luigi Marrone. Ora pro nobis. Ciao a tutti. Ciao Luigi, questa cosa che continuano video e iconizzazioni insomma sulla tua persona, immagino continui a farti piacere. È tutta una grande burla che ci fa ridere e che è bello che ci sia. No, tu dici che era burla, sta attento che poi Morgan si incazza dopo. ovviamente ospite speciale per questa puntata, in particolare per questa puntata, proprio perché è un esperto in materia. Ci siamo sentiti nelle settimane passate parlando proprio del primo episodio di Dietrologia Videoludica. Abbiamo cercato un po' di approfondire, sapevamo che avremmo dovuto tornare a parlarne proprio perché stava per uscire questa benedetta Extended Edition. Comunque ci sono stati tutti quanti i nostri ascoltatori che si sono incazzati per il finale della prima puntata. È vero. Hanno fatto class action contro Electronic Arts. Ma che cazzo di finale è quello della vostra puntata? Noi vogliamo un altro. E quindi abbiamo dovuto fare l'Extended Edition anche noi della nostra puntata numero uno, che era Iniziamo dalla fine. E chi meglio di Giuseppe Saso, anche detto l'opinionista videoludico. Benvenuto Giuseppe. Salve a tutti e grazie per avermi invitato. Beh, invitato sei ogni tanto, quando capiterà, insomma, sarai sempre il benvenuto. Qui siamo tutti di casa, siamo tutti amici, tutti quanti ci vogliamo bene. Manca Roberto Bertoni perché aveva una partita di calcetto. Oppure c'era qualche partita dell'Inter, perché di solito quando manca Roberto... Forse c'era una partita dell'Inter a calcetto. A calcetto. L'Inter che giocava a calcetto. E badate bene. Ma quel ragazzo che c'ha cioè, problemi di dislessia, isolano... Quello che parla è Stampatello, c'era? Il sardo. Che fine ha fatto? Vabbè. Dov'è? Il mitico Big Joe, che purtroppo Stefano Big Joe questa sera ha avuto un impegno, sicuramente... di carattere romantico magari sessuale, forse ha fatto anche sessuale. Bene da una parte, cioè nel senso che diciamolo, come biasimarlo, insomma. Quindi salutiamo Stefano che purtroppo questa sta sera sta copulando in questo momento, esatto, quindi io sono non sarà con noi e noi avremo modo, insomma, di sviscerare in maniera ancora più approfondita, senza che nessuno interrompe chi questo nostro argomento, che come abbiamo detto è il finale di Mass Effect, che è stato rieditato in questa Extended Edition. Ma prima di entrare nel vivo della trasmissione, visto e considerato che Morgan l'altra settimana ci ha sgamato, facciamo partire un piccolo spot. Se un dado fosse troppo forte, sai di cosa saprebbe il tuo minestrone? Di dado. E il tuo pollo? Di dado. Dado Knorr è un dado che sa fare il dado, perché arricchisce il sapore dei tuoi piatti senza coprirlo. Ehi papà, guarda, un pollo! Dado Knorr, un dado che sa fare il dado. Ok, manca Stefano Biggio, abbiamo detto, quindi non possiamo fare l'esame di lettura. Però qualcuno lo deve leggere. Guarda, se vuoi lo leggo con un occhio chiuso, così simuliamo. Prova anche su un piede solo. Prova a leggere solo. Aspetta, il tema della puntata, così poi entriamo veramente sul vivo, che i nostri ospiti qua sono belli caldi già. Sì, ma non, purtroppo con un occhio solo non riesco a percepire la profondità. Ma comunque, è finalmente questa benedetta versione stessa del finale di Mass Effect 3 è giunta tra noi mortali. L'abbiamo quindi osservata, riguardata, analizzata, abbiamo cercato le differenze, le migliorie e di comprenderne soprattutto l'utilità. Questa volta lo faremo con un super esperto, con colui che il finale l'ha giocato in tutti i modi e maniere, andando anche a scovare cose che noi umani non avremmo potuto mai trovare. E riproponendoci le medesime domande della scorsa volta, questo finale è bello, brutto, utile? Impressioni, dubbi e sospetti più che leciti si sveleranno in questo nuovo episodio di Dietrologia Videoludica. Questa lettura non è che sei stato tanto meglio di Stefano. Vabbè, ma con occhio solo su piedi su piedi. Ho capito. Scusa, adesso dovevo simulare la sardinezza, come si dice? Beh, no, l'avresti dovuto parlare con le Vabbè, ma lì è difficile poi. Vabbè, dai, ragazzi, entriamo sul vivo. Allora, io iniziavo da Luigi, perché è il nostro, insomma, come è la nostra via, quello che prima fa l'apripista, è il nostro vate. Esatto, è quello che detta l'indirizzo, poi dopo ci scateniamo tutti. Abbiamo dietro. Abbiamo comprato per il tuo compleanno un coprivate, è bellissimo. Oh, coprivate, mi mancava, mi mancava. Allora, come abbiamo detto, insomma, cerchiamo prima di entrare nel dettaglio, quindi di esaminare tutti quanti i vari risvolti, anche le nostre opinioni, e poi è anche suggerito da Giuseppe di entrare anche magari proprio nel particolare per quanto riguarda la storia di Mass Effect. Quindi lo diciamo subito, stiamo parlando di un podcast ad altissimo contenuto di spoiler. Luigi, iniziamo con un'opinione proprio generale. Sì. Come facciamo sempre, prima un'opinione e poi entriamo nel dettaglio di questa estensione che tu suppongo abbia giocato, insomma. Sì, un'opinione generale mia è che assolutamente la trovo, come abbiamo ribadito, un'operazione non commerciale, non legata ad un aspetto commerciale, è scaricabile gratuitamente, ha una certa un suo peso, perché il pacchetto che è scaricato contiene anche altro che probabilmente sarà attivato con i prossimi DLC, ma questo non è un problema, dobbiamo ragionare adesso in ottica DLC, ottica digitale. Non lo trovo assolutamente né spocchioso né didascalico come contenuto aggiuntivo, come finale, perché Mass Effect è un gioco di narrazione che gioca con la narrazione, e quindi che ben venga più narrazione, se questa può aiutare secondo me a comprendere ancora meglio il portato della storia e quindi fondamentalmente della sceneggiatura di Mass Effect. Quindi questa è la mia diciamo idea sull'aggiunta che è stata fatta con questo DLC, su queste versioni estese. Sei comunque sostanzialmente soddisfatto? Sì, sono soddisfatto e io lo considero considero i finali definitivi. Ok, Giuseppe. Allora, io sono parzialmente d'accordo con Luigi, nel senso che vai la polemica, sì. La polemica. Nel senso che sì, è un finale che comunque mi ha leggermente appagato. Ovviamente avevo bassissime aspettative in quanto insomma, ero rimasto un po' deluso dei finali precedenti, che si differenziavano fondamentalmente per delle esplosioni colorate, e questo qua almeno dà un po' più di conclusione e di epilogo alla storia, quindi da questo punto di vista sì, mi ha lasciato appagato. Al meglio ovviamente non c'è fine, però voglio dire, per quello che hanno creato a questo punto c'era da chiedersi perché non lo introducevano sin da subito, voglio dire, dopotutto si tratta, come andremo poi a discutere, fondamentalmente di un paio di cutscene in più e di quattro slide in successione. Sì, anche se poi dopo magari cerchiamo anche di capire le nostre impressioni sui perché e sui per come di questa modalità di rilascio di questo finale. Però comunque anche tu, insomma, diciamo che sostanzialmente è certo che rispetto a quello che era prima è difficile fare di meglio. Esatto. Marco? Insomma, sono stato soddisfatto, quello sì, perché sicuramente ho avuto, rispetto al primo, che comunque lo stesso colpito mi ha soddisfatto, mi ha pagato di più. Perché? Perché comunque quando è finito l'ultimo spezzone di cutscene, non ho pensato sì vabbè, ma sta cosa qui che come cazzo è successo, cosa che avevo pensato nel primo, per entrare proprio nell'inciso, la Normandy che a un certo punto compariva dal nulla e si trovava in mezzo a un campo di sta viaggiando nell'iperspazio e non si sa perché, personaggi che spariscono, cioè mi sono sentito più comunque appagato perché ho avuto una risposta alle mie domande, ma soprattutto non me ne ha create altre, e quindi mi son sentito, insomma, di avere visto il finale più completo. Mi ha dato anche l'impressione che comunque questo finale ci si sia lavorato di più rispetto a quello che era stato fatto prima, cioè un finale che hanno fatto quasi a sbrigarsi, poi non so se è stato fatto volutamente o meno, e quindi insomma tutto sommato sono stato soddisfatto, quindi posso ritenermi contento. Ok, quindi vabbè, insomma sostanzialmente siete tutti abbastanza soddisfatti di quello che è stato fatto poi in questa operazione, che al di là di quello che è stato detto nel primo... Sì, poi precisiamo, non è che hanno, diciamo, cambiato o completamente rifatto il finale, lo hanno leggermente integrato, senza andarlo poi a... oddio, sto facendo un danno, senza andarlo poi a rimaneggiare completamente, quindi senza andarle poi a cambiare quello che era il fulcro del finale. Cioè Giuseppe, mi sa volare di qualcosa? No, vai. No, ok. Ma vabbè. A parte il quarto finale, che poi ne parleremo. No, però a questo punto io salto un attimo un piccolo pezzo qui nella scaletta, poi dopo mi riaggancio. Ma la sensazione... Vabbè, noi abbiamo parlato nella puntata precedente del fatto che tutta sto cancan, questa insoddisfazione anzi io in particolare ho detto tutta l'insoddisfazione dei fan era dovuta anche al fatto che la gente non si accontenta più, che magari non vuole più finali a carattere interpretativo, però poi in effetti andando a riflettere, andando a rianalizzare un po' le cose, c'era poco da riflettere, mancavano proprio dei pezzi, quindi la sensazione è che Questo qua è un DLC che loro hanno lavorato, o è il finale che non hanno fatto in tempo a mettere nella parte commerciale, quindi nella parte del gioco, insomma, completa? Luigi, secondo te? Ma non penso che non abbiano fatto in tempo a metterlo, visto la seguita dei contenuti. Però mi viene da pensare al fatto che quel poco che hanno aggiunto comunque è un giga, quasi 2 giga di dati. Quindi all'interno si presume sia stato anche un mezzo per veicolare l'invio, la diffusione di un DLC futuro che sta all'interno del finale stesso, nel file in cui è contenuto il finale stesso. Quindi fondamentalmente, diciamo, hanno sfruttato questo aspetto qui come un po' un cavallo di Troia per far passare anche scaricare il DLC, perché altrimenti non si spiega queste poche aggiunte che occupano 2 giga di dati. Quindi noi abbiamo anche... Beh, comunque ci sono anche filmati, audio, insomma un po' di roba c'è. Sì, ma non anche... da giustificare appunto 2 giga. Quindi, non lo so quanto può occupare dei, quanto possono occupare dei filmati e dei contenuti di audio. Ah, cioè, nel senso, quello che tu dici, Luigi, è che sì, quelli ci sono comunque all'interno del finale in sé già ci sono dei contenuti in più che nel file che adesso che abbiamo scaricato con questi 2 giga di roba, c'è, cioè, secondo me un DLC che sarà il futuro DLC che verrà attivato se lo compriamo, in modo che non ci da riscaricarlo. Mm. Abbiamo un contenuto dormiente dentro quel file che può essere attivato. Addirittura a questo siamo arrivati, ho capito. Se non lo compri, sì, poi sì, diventa un virus e distrugge l'hard disk. Giuseppe? Devo dire che effettivamente, vabbè, a parte il discorso del DLC futuro, in realtà tutte le varie cutscene occupano tanto spazio comunque, e dobbiamo anche tenere presente che noi, insomma, quando giochiamo, vabbè, io sono un caso un po' a parte, sono malato di Mass Effect, quindi insomma me lo sono giocato anche con diversi personaggi per vedere insomma un po' tutte le differenze, ma all'infuori dei 4 finali canonici, in realtà ci sono anche diverse variazioni sia di slide che di filmati a seconda appunto della tua forza militare, dei tuoi war assets fondamentalmente. Quindi, per esempio, vedi nel caso peggiore, stiamo entrando nella zona spoiler, vero? Sì, sì, ma no, oramai. Sì, okay, sì, perfetto. Vai sereno, bro. Cioè, se per esempio hai una quantità di war assets molto bassa, mi pare inferiore ai 1000, tu comunque, anche se attivi il crucibolo, quindi fai, che so, la scelta della distruzione, anzi, è l'unica effettivamente che ti si presenta in quel caso, se hai distrutto la base dei collettori, fondamentalmente vedi la terra che esplode, che proprio si incenerisce. Quindi questo è un altro pezzo di cutscene che non vedreste ovviamente nel caso dei futuri migliori. Per esempio, pure hanno una cosa che hanno cambiato è col valore più alto, quando c'è il discorso dell'onda d'urto della Normandy che sta scappando, se noti la scena è diversa, però quella vecchia l'hanno preservata e inserita nel finale, diciamo, con sempre col basso valore di war assets e di reattività galattica, quella più danneggiata e meno danneggiata, esatto, diciamo. Tant'è che infatti nel caso peggiore la Normandy non riparte, non lascia il pianeta tropicale, per darti un'idea. Sì, poi la giusta, non si sa in realtà che fine fa, però sì, comunque era sotto riparazione. Sì, sì. E poi, diciamo, pure la serie di alla fine tu, diciamo, vedi un po' di personaggi, no? Sai, queste specie di flashback, questo prima delle slide, presente. Molto falloutiane. Sì, sì, esatto. Queste variano e sono, diciamo, hanno considerato tutte le possibili variazioni a seconda dei personaggi che muoiono, di chi è il tuo interesse amoroso, no? O anche le slide cambiano in realtà, sia tra i 3 finali che anche se certi personaggi sono presenti o meno. Quindi ovviamente se sono morti non vedi qual è il loro epilogo. Quindi, diciamo, c'è molto materiale, considerando, diciamo, tutti i possibili, le possibili combinazioni comunque. Però quello che volevo sapere se secondo te questo è un finale che veramente hanno costruito successivamente o se... Per quanto riguarda questo io ne dubito. Loro fondamentalmente, almeno la mia, quello, diciamo, che l'idea che mi sono fatto, anche insomma seguendo, perché bazzico molto sia nel forum di Bioware che insomma leggendo anche in giro libri, articoli e quant'altro, è che fondamentalmente loro avevano dei ritardi nei tempi di consegna e insomma hanno deciso di alla fine di uscirsene, non sapevano che pesci prendere fondamentalmente, perché comunque non fondamentalmente i razziatori sono sempre un elemento chiave di tutta la saga di Mass Effect, quindi effettivamente il fatto che i razziatori venissero eliminati, questa cosa può fare piacere a certi giocatori, un po' meno effettivamente agli investitori Electronic Arts, no? Perché significherebbe praticamente la fine della saga, esatto, e quindi la fine dei soldi, di futuri guadagni. Quindi loro fondamentalmente hanno detto: allora sai che c'è, ce ne usciamo con un finale interpretativo, appunto, che poi in realtà anche questo non è una novità in casa Bioware, perché fondamentalmente siamo abituati, cioè Bioware, almeno per chi ha giocato anche i vecchi giochi Jade Empire, Neverwinter Nights, Baldur's Gate, aveva KOTOR, aveva comunque dei colpi di scena alla fine, insomma. che sì, però capitano quello che non ti aspetti, ti lasciavano interpretare, cioè, erano abbastanza. Vabbè, erano anche diversi i tempi, esatto, però, nel senso. Però prima di rigirare questa domanda a Marco, mm-hmm, che Marco ovviamente adesso, perché io però sono propendo anch'io per questo, perché io non ci credo che mo, al di là del discorso che abbiamo fatto, e sono d'accordo con quello che ha detto Luigi la volta scorsa, mm-hmm, il fatto che BioWare ha subito l'influenza del grande produttore, no? Sì. Quindi di Electronic Arts, mm-hmm, che in qualche maniera ha sicuramente condizionato lo sviluppo del gioco. Poi dopo magari ne parleremo anche, perché parliamo anche da un punto di vista di quello che è il rapporto autorale, no? Del gioco, mm-hmm, con chi l'ha scritto, mm-hmm, e chi non c'è stava più, chi c'è stava ancora, mm-hmm, e via dicendo. Cioè io non penso che questi hanno fatto una saga dei tre capitoli clamorosi che abbiamo amato, mm-hmm, tutti quanti, e se ne sono usciti sul mercato con finale di merda. Cioè è vero che sono usciti, è vero che stiamo parlando della stessa BioWare che ha fatto uscire Dragon Age 2, eh? Esatto, è vero che palesemente quindi sviluppati da gente che non sapeva cosa stava facendo, perché comunque non c'entra un no tubo, ma tra l'altro è uscito a 8 mesi di distanza, sì, dal, sì, primo, cosa... che significa che quella doveva essere un'espansione, ma neanche, che l'hanno fatta perché diventare un altro gioco, cioè non lo so, mm-hmm, io boh, ci sono delle cose che secondo me con concept, disegni completamente diversi, personaggi cambiati, cioè proprio due società, come se fossero due società che hanno preso la stessa, mm-hmm, roba e ci hanno fatto due storie, mm-hmm, diverse. Secondo me questa era una software house che ha fatto dei giochi clamorosi, quando sono entrati i soldi non ci hanno capito più un cazzo. Vabbè, comunque Marco, secondo te era un finale previsto? Ma guarda, io c'ho sempre il dubbio. Secondo, io pure propendo che sia stato fatto così perché non ci hanno avuto tempo, non hanno avuto la possibilità di mettere tutto quello che avrebbero voluto fare. E comunque per quanto riguarda questo finale, non è tanto il fatto che sia stato, diciamo, come dici tu, lo spiegone. Più che altro è l'approssimazione, l'incompletezza del finale, che veniva spacciato come arte, che mi faceva un po' rode, insomma, perché diciamo, ma questa è arte, è una cosa particolare, cioè, no, quella è una cazzata. Mi ha fatto un finale che ci si capisce una ceppa, ma perché ci stanno proprio i buchi. Quindi secondo me, cioè, non può essere stato partorito da uno sceneggiatore un finale del genere. Deve essere stato per forza una cosa o fatta apposta proprio per spacciarti gli DLC, magari a pagamento come Fallout 3, oppure una cosa del tipo prendiamo tempo. Ah, tu dici perché non, però alla fine non ci hanno avuto il coraggio di fare quello che ha fatto Bethesda. No, perché si sono talmente incazzati, perché vabbè, su Fallout non si sono incazzati, la gente non si dice, già avevano detto guarda, questo c'è un DLC. Ma forse perché la gente ancora non era abituata a queste cose, è rimasta talmente basita che ma non ha fatto il tempo a incazzarsi. Ma Fallout comunque il finale, cioè se capisci muori, punto, basta. Ah, muori nel finale? Sì, sì. Fallout, sì. Muori. Sì, no, sto scherzando. Ci ha giocato pure lui tre volte. Insomma. Sì. Muori. Fallout, non lo so, veramente. No, ho giocato. Broken Steel. No, non sei morto. Quindi, comunque, è una cosa in più. Qui proprio, cioè, è proprio. Non si capiva che succedeva. Cioè, si capiva, ma in realtà tanti particolari erano persi. La cosa peggiore è che quello che avevano. La cosa con cui ci avevano sbomballato per due giochi, cioè il vedere i risultati delle nostre azioni riportate nella galassia, e quindi le varie società galattiche che subivano l'influenza delle nostre azioni, era sparita completamente, cioè proprio completamente bypassata. Ed è una cosa che dice, la metti o non la metti. Ma per me è l'unico dubbio che mi rimane, perché in effetti anche io propendo per stare, come ho detto, cioè nel senso, sono d'accordo sia con te che con Peppe. Però mi viene il dubbio, perché in realtà Mass Effect era già stato posticipato da un anno, sì, l'anno su. E alla distanza, se non sbaglio, la prima giustificazione dell'anno scorso doveva uscire. Doveva uscire l'11/11/11. Esatto. No, quello è coso. No, quello è Skyrim. No, forse era Skyrim. Ok, vabbè, comunque doveva uscire. Però no, doveva uscire prima dell'estate dell'anno scorso. Sì, insomma, uscirono questi rumors e poi no, lo posticipiamo di un anno. 12/12 può essere qualcosa del genere. 666. Vabbè, comunque doveva uscire in una data che poi era stato posticipato, e la giustificazione fu che Electronic Arts voleva inserire il multiplayer, no? No, neanche, che doveva rifinire, non voleva che fosse lasciato un prodotto incompleto, bla bla bla bla. Quindi a un anno di distanza questo ancora okay. Allora, quindi vabbè, cioè, un po' di dubbio su sta cosa rimane. Ma entriamo un po' nella ciccia. Luigi. Sì. Quali sono le sostanziali differenze che hai trovato in questi finali? Cioè andiamo proprio un po' più nel dettaglio, nel senso quali cose sono state aggiunte e soprattutto rispetto al finale precedente, che cosa ti ha dato in più questo DLC gratuito che ci ha regalato BioWare. Dunque, ti dico che io ho giocato il finale già con l'installazione extended, quindi ho avuto il modo di vedere il finale. Ah già, tu non l'avevi finito, è vero, non l'avevi giocato perché aspettavi l'extended, è esatto. è vero. E però ho avuto modo di vedere il normale, il finale originale tramite YouTube. Ed effettivamente è di cattivo gusto la ruota di scelta dei tre finali con i tre colori. Che andava a supplire alla scelta che invece è molto più adesso legata proprio all'aspetto cinematografico, se vogliamo, all'aspetto di racconto visivo e di scelta da questo punto guidata di gameplay. Non mi è piaciuto, cioè il fatto della variante della ruota era qualcosa che devi relegare soltanto al senso della narrazione, non ad una scelta di un finale, andando a toccare quel tipo di colori che ricordiamolo denotano soltanto i colori, le opzioni di linguaggio speciali orientate verso il positivo e il negativo. Invece in questo caso andiamo a scegliere il finale. Non mi piace come scelta strutturale di gioco in quel senso. Diciamo che di peggio l'abbiamo visto solo con Fahrenheit. Sì, può essere. Cioè, per fare un paragone, ho preferito il finale, se fosse rimasto tale, avrei preferito il finale tipo Deus Ex, che non so se sapete, Human Revolution, l'ultimo, c'è questa scelta fatta di questi tre terminali. Poi è completamente identica anche la scena finale, sì. Cambia soltanto l'ultima azione. Che è di gusto sicuramente migliore rispetto al primo finale di Mass Effect. Ma non ci stanno, cioè non è che a un certo punto ci sta un personaggio del gioco che stava sulla piattaforma, adesso spoileriamo pure il gioco, che a un certo punto si ritrova su un'altra parte e sta a prendere daiquiri sotto il sole, per dire, che tu dici ma che cazzo sta a fare questo qui, cioè, non ci sono dei buchi, cosa che invece c'erano in Mass Effect, cioè tu invece di toglierti delle domande te ne aggiungeva delle altre. sì, così. Tanto vabbè, come diceva Peppe, le aggiunte sono poche da un punto di vista, sono informative, sì. Chiariscono meglio l'informazione, il contenuto dell'informazione che volevano dare per il finale. Quindi non è che c'è un extended legato ad informazioni aggiuntive che modificano la sostanzialità del finale. Ci sono già degli aspetti sembrando molto più curati che l'opera presumeva, in quanto opera d'arte, una space opera grossa con le palle, quindi era riduttivo lasciare quel finale così sbrigativo che lascia vero l'amore in bocca, una conclusione non perfetta, non degna. Tu mi chiedevi, Simone, di parlare delle aggiunte, quindi fondamentalmente di cosa. Guarda, ti racconto un aneddoto che la dice lunga su quello che mi è capitato quando ho portato a termine per la volta Mass Effect 3. Come sapete è stato aggiunto un finale, oltre a quello distruzione, controllo e sintesi. Ce n'è un altro chiamato rifiuto, esatto. Che è fondamentalmente quello aiutami Peppe, del rifiutare totalmente l'intervento del catalizzatore. Sì, dicevi me ne fotte, combattiamo per conto nostro. Sì, è un finale che tu praticamente puoi ottenere o rifiutando sempre le tre opzioni oppure sparando. Esatto, sparando ecco. Direttamente a Casper. Quello che è successo a me, cioè se voi ci pensate, prima di arrivare al finale c'è da fare un bel tratto di guerra sulla Terra. E io avevo salvato nell'ultimo checkpoint salvabile dal punto di vista della scelta manuale del salvataggio. E quindi veramente quando sono arrivato a quel finale ho detto ah, che bello, adesso mi questo finale. Quando mi sono trovato a muovere Shepard verso le tre opzioni, a sparare al bambino, no, io ho cominciato a sparare a cavolo, perché è una cosa che faceva sempre il mio fratello quando era bimbo, cioè nel senso provavo le varie soluzioni di gameplay e delle possibilità di libertà che davano al personaggio per giocare col gioco stesso, no, per sdrammatizzarlo. E quello era un momento molto drammatico, se ricordate il finale letteralmente sdrammatizzato, che hai sparato al bambino. ecco, sbaglio. È successo che stavo sparando questa pistola, ho fatto pensavo si può sparare negli interni come succedeva nel primo Mass Effect. Se voi vi ricordate, il primo Mass Effect potevi entrare nella cittadella, tirare fuori l'arma e sparare a tutti quanti senza fare nulla, come se fossero delle persone di cartone, che non succedeva nulla. Potevi sparare sui muri, per terra, eccetera, che qui invece è stato inibito su Mass Effect 3. Se vi ricordate, quando si usa la cittadella non c'è neanche la pistola, molte volte, a parte le scene in cui c'è, si combatte. Come nel 2, cioè, mi sembra, ragazzi, proprio parentesi, correggetemi se sbaglio, è vero che in questo Mass Effect non si può riporre l'arma? No, non si può riporre, cazzata questa. Devi stare sempre con la pistola spianata come in un first person shooter. È una cosa che a me mi è spiaciuta, perché è orribile, veramente. Crea una discontinuità per quanto riguarda il discorso dell'appeal cinematografico. Mi sarebbe molto piaciuto che ogni tanto si è potuto riporre l'arma, non soltanto quando ero obbligato da una cutscene che stava partendo, ma perché effettivamente non c'era da sparare. Io ho sempre adorato il suono in cui dei servomotori della tuta di Shepard e dei compagni quando tira fuori l'arma. Sì, è proprio bello. Questo l'ho tagliato, quindi la pill manca. Ho detto, voglio confrontarlo con i elementi dietro di trilogia videoludica per vedere cosa ne pensavo. Ma se sono scordati di mettere la spunta sulla features, secondo me veramente orribile questa cosa, che lui sta sempre con le mani così, con la pistola in mano, orribile. Mi ricordo questa, raccontiamo questa cosa al volo, poi passiamo a Giuseppe, così almeno ci dice anche la sua su quanto detto da Luigi, che mi ricordo quando uscì la demo, la scaricammo per PS3 e con Marco, dai vediamo se sta demo, dai, che eravamo tutti galvanizzati, vedevamo l'ora di dare se non altro il primo assaggio, insomma, quello che e c'era la prima scena, insomma, quando tu poi esci fuori dal finestrone, cominci a scendere, roba del genere, cioè la prima volta che lui estrae l'arma, poi quando tu hai finito di sparare, cioè la prima cosa che fai è rimetterla dentro, che cazzo, ma com'è? Lui mi faceva, rimetti dentro l'arma che si vede meglio, cioè in effetti, ma si vede anche meglio l'inquadratura, esatto, perché si gestisci, no? Meglio, no? È chiaro, come in quelli vecchi, no? No, ma guarda, dai, guarda che è puzzante quello, no? Dice, non si mette, non rientra. Dice, ma no, vabbè, forse perché è una demo. Ma col cazzo. Invece niente, era proprio. Quindi questo veramente, se uno veramente da domandarglielo il perché. Perché, certo, come dice Luigi, in effetti non è poco, cioè, no, ma spezza, cioè, manca a quel punto ma anche del realismo, cinematograficità, si spezza la sospensione dell'incredulità, fondamentalmente, perché ti sembra di essere proprio in un videogioco, in un FPS. Bravo, bravo. È quasi un ritorno al passato. Sì, sì. Quasi un ritorno al passato. Cioè, nel senso, quando tu devi sparare, stavi sempre con l'omino, sempre con la pistola puntata. Ma no? Neanche che abbassa, cioè, ma perlomeno una volta abbassavano il braccio. Neanche quello. No, sempre con questa spalla così. Quando c'è due spalle grosse come un mulino. Ma è veramente sta cosa mi ha lasciato interdetto pure a me. Comunque, Peppe, riprendiamo il corso. Insomma, quali sono, secondo te, le particolari differenze, insomma, che sono state aggiunte anche tecnicamente? Allora. In realtà sì, cominciamo un po' da prima. La prima differenza che, diciamo, io come un deficiente mi sono ho guardato solo dopo aver giocato per 2 ore e mezza, rifacendo ovviamente tutta la missione, quella dello sbarco su Londra, eccetera, perché poi in realtà io pensavo che già là cambiasse qualcosa, visto che dicevano, insomma, di caricare un salvataggio molto indietro, no? Loro dicevano caricate tipo dalla stazione Kronos l'attacco a Cerberus. In realtà le differenze sono solo nel momento in cui tu fai la corsa verso il raggio che ti porta, che ti porta alla cittadella, no? E già là la prima differenza che va a colmare parzialmente, secondo me, una lacuna, è che fine fanno i tuoi compagni di squadra, quelli che ti sei portato appresso, no? Perché nel finale, quello pre-extended cut, sparivano, cioè tu ti risvegliavi, insomma, c'erano tutto attorno morti, ma non vedevi gli altri. Qua ora invece praticamente scopri che sempre a seconda della tua reattività galattica, esatto, se ce l'hai molto bassa muoiono, perché proprio vedi la scena disgregata, sì, e poi in realtà trovi dopo, diciamo, questa scena, se vai avanti vedi al posto di 2 marine normali, vedi i loro cadaveri. O quello che ne resta, per meglio dire. Mentre invece, ovviamente, con un valore molto alto, vedi il discorso che tu stai correndo. Poi c'è il raggio dell'araldo che colpisce un mago che si ribalta, insomma, ferisce gravemente i due membri. Tu chiami la Normandy atterra un attimo, prende i due tizi. Nel frattempo, ovviamente, ed ecco perché questo diventa un po' assurdo, cioè va a creare altri problemi risolvendone altri, cioè com'è che nel frattempo l'araldo sta a guardare così tranquillo senza continuare a sparare raggi in direzione di Shepard, della Normandy. Vabbè, secondo me è lì perché proprio non servono, che cazzo fa. Sì, cioè, sì. Aspettiamo che se inventiamo qua, in effetti ci avevamo pensato. No, perché voi lo sapete come scrivono gli americani, no? C'è questa stanza dove ci sono 6-7 sceneggiatori, il capo dei sceneggiatori, quindi una sorta di lead che praticamente è il capo produttore, insomma, sì, dal punto di vista artistico, che stanno lì e discutono. Bravo, sì, quella va bene, ok, questa la segniamo, questa la scriviamo. A un certo punto, dopo che 40 ore stavano a discutere sulla stessa cosa, uno si alza in piedi, ma rotto il cazzo, fammo così, perché deve essere assolutamente, cioè nel senso, evidentemente devono arrivare a una conclusione, sì, qualcosa manca, no? È inevitabile, insomma, hanno cercato di mettere le pezze in ogni dove, sì, e la maggior parte delle cose magari sono riusciti, ma era impossibile poi riuscire a risolvere. Saltando, diciamo, tutta la parte dove tu arrivi alla cittadella, bla bla bla, dopo che, insomma, ti... Quella fondamentalmente è uguale, se non sbaglio. Sì, sì, esatto. Infatti, cioè, volevo dire direttamente saltare al prossimo cambiamento. È quando ovviamente fai tutta la parte giocata di dialogo con Casper. E che in pratica, diciamo, mi dispiace, ma sì, fornisce molte più indicazioni, perché tu gli puoi chiedere prima, diciamo, che ti dà le tre possibilità, gli puoi chiedere, insomma, che cos'è il catalizzatore, l'origine dei razziatori. Lui stesso ti dice che in realtà è una specie di intelligenza artificiale, un programma fondamentalmente creato tempo fa da un'altra razza per risolvere il problema, appunto, di questa singolarità tecnologica, no? del conflitto tra i creati e i creatori, no? E poi, diciamo, lui ti presenta ovviamente queste tre scelte, dove, a differenza del finale precedente, qua ti fa vedere a modi quasi di quiz televisivo, cioè se prendi questa distruzione guarda che cosa può succedere secondo te. Là invece, se vi ricordate, andava semplicemente avanti, diceva le scelte sono questa e quest'altra, scegli. No, mi sembra che comunque ti faceva vedere. No, le conseguenze non te le faceva vedere, era proprio vedere giusto esatto, lo misterioso. Ma non ti faceva vedere, tipo, se ti ricordi ci sono pure delle specie di cutscene stile flashback in bianco, sì, e nero, esatto. Queste, diciamo, le hanno aggiunte così proprio nell'intenzione di Bioware di essere un finale chiarificatore, cioè che ancora prima che scegli ti dicono le conseguenze possono essere questo o quest'altro. E vabbè, poi ovviamente subito dopo la tua scelta parte ovviamente tutta la parte che è fondamentalmente cambiata. Anzi, ora che ci penso, una cosa che mi sono però dimenticato, scusami, è quando, prima che tu sali appunto al piano superiore da Casper, c'è il discorso che quando attivi e apri i bracci della cittadella c'è un'altra cutscene che spiega com'è che tutta la flotta, insomma, si è cominciata a scapparsene, no? Dice la abbiamo attivato il crucifisso, esatto. E questo va a giustificare tutta l'altra domanda, l'altro plot hole che era stato fatto, ossia perché Joker e la Normandy se ne sono già scappati. E questa, diciamo, era una cosa che interessava molto ai fan, fondamentalmente, che, insomma, se ci avevano messo tutto quanto che ai fan, comunque, sì, lì a un certo punto tu vedi la Normandy che se ne va e dici dove stanno andando, addirittura l'hanno fatta, diciamo, per dare, diciamo, un senso di un po', diciamo, di eroismo a Joker, il fatto che lui all'inizio ci ripensa, non vuole andare, subito scappare, sì, esatto, sì. C'è poi un membro che cambia a secondo delle diverse scelte che ti dice a Joker, dai, andiamo, no? Diciamo, a seconda di quelli che sopravvivono, più che altro. Sì, sì, sì. quelli che restano in piedi. Sì, sì. E poi ovviamente c'è tutta la scena dove parte il raggio. Questa parte è stata, appunto, come dicevo, come ho detto prima, modificata leggermente, perché se fate caso rispetto a prima anche se qui posso dirti una cosa che secondo me, non so come la pensi, secondo me il Joker è più, diciamo, in preda al panico della versione precedente, era meglio di questa, che sta tranquillo con la faccia inespressiva praticamente. Secondo me rendeva più l'idea quello vecchio, che poi è rimasto nella versione, diciamo, finale non buonissimo. Sì. Non so se hai notato che è differente pure la... Sì, sì, dove, cioè, lui è più deciso quando scappa, sì, sì. E poi, diciamo, appunto, il raggio che parte, la cittadella che i portali galattici che vengono parzialmente danneggiati, tranne ovviamente in quello che ho scelto io, tra parentesi, così finalmente tutti lo sanno, io ho scelto controllo blu. Che in quel caso ovviamente la cittadella si richiude i bracci ma non si distrugge. E poi proprio poi a seguito della propagazione del raggio, che là c'è pure un errore, nessuno l'ha notato forse, ma il raggio, se guardate il quadrante della mappa galattica da dove parte il raggio, dovrebbe partire dal sistema Sol, invece parte dalla nebulosa Viper, che è un'altra. Questo, diciamo, altro errore che, nonostante gli abbiano fatto notare sui forum, non hanno modificato. Scusate, ma diciamo, hanno detto sti gran cazzi. Sì, hanno detto, vabbè, quello oramai l'abbiamo scriptato, basta. Scusate, parlo anche un po' da fanboy, perché comunque ci tengo, insomma, a tutti i dettagli, a tutta questa mitologia dietro Mass Effect. No, anche perché è un peccato, cioè veramente hanno costruito un universo straordinario, no Luigi? Perché ne parlavamo pure l'altra volta, cioè il Mass Effect 1 per me rimane una pietra miliare, cioè proprio il capolavoro dei capolavori, insomma, per certi versi, perché per chi è appassionato a un certo tipo di fantascienza ci hanno regalato una storia che era tanto, magari, che non ci godevamo in quella maniera lì. Una grandissima space opera, Mass Effect, il primo, ha giocato delle carte non indifferenti per quanto riguarda sia la cifra stilistica, sia l'innovazione dal punto di vista dell'appeal, legato più che al gameplay, al senso narrativo, alla progressione narrativa del gioco. Io penso che Mass Effect sia un'opera fondamentalmente narrativa in cui tutto viene giocato sul senso piuttosto che sull'interpretazione letterale. Se voi ci fate caso, Shepard, quando noi scegliamo nella ruota delle frasi ciò che deve dire, non dice esattamente quella cosa lì. Quindi dice più che altro il senso che è legato a quella cosa lì, molte volte anche da un'interpretazione, molte volte, e questo è bello, cioè rende Mass Effect un gioco di narrazione e di significato, Un gioco che tra l'altro abbiamo, il primo in particolare, talmente tanto amato che poi abbiamo perdonato di tutto, no? Perché già dal secondo in poi abbiamo iniziato a perdonare noi, no? Quindi e lì è entrata insomma Electronic Arts, ci scordiamo, quindi l'iniezione di soldi, come hai detto tu, ha dato la testa, no? Sì. È perché l'iniezione non la fanno proprio. La fanno in maniera un po' più brutale l'iniezione. Ho interrotto brutalmente Giuseppe. No, figurati. Giuseppe. No, comunque io ci tenevo ricollegando. Comunque, non so voi, diciamo, io ho scelto comunque appunto il finale, vabbè, di controllo, perché che secondo me è migliorato. Anzi, è quello che mi ha più ha suscitato in me più, diciamo, emozioni. Mi sono proprio commosso alla fine. Ossia, quando lui dopo che si è fuso appunto con l'intelligenza artificiale, che tra parentesi questa cosa è che per chi di voi ha giocato a Deus, al primo Deus Ex, non Human, è simile, perché è lo stesso finale dove JC Deus Ex, il protagonista Denton, si fondeva con l'intelligenza artificiale Helios, che poi rappresentava il finale canonico per Invisible War, per l'altro Deus Ex, tra parentesi. Curiosamente è già la seconda volta che fate riferimento a parallelismi tra Mass Effect e Deus Ex. I finali erano sempre ABC, sono dei copioni comunque. Comunque, diciamo, secondo me, diciamo, questo di controllo in particolare è sempre comunque stato il finale positivo che ho sempre voluto, diciamo, senza ovviamente avere la pretesa di voler risolvere tutto, come per esempio può essere in quello verde, in sintesi, no? A parte, vabbè, che non mi sono tutto mai piaciuti i circuiti stampati sul corpo, però questo è un altro paio di mani. Comunque, secondo me è proprio toccante il discorso che fa Shepard, che precisiamo a dire, nei tre finali il narratore dell'epilogo cambia. Appunto, nel caso, sì, del caso Blue è Shepard a tirare le somme. Insomma, e tra parentesi, questa voce e il senso delle sue parole cambia a seconda se tu sei più paragon, cioè più eroe o più rinnegato, perché mentre se sei più eroe, cioè sei di Dio benevolo, là sei una specie di quasi di tiranno, tra parentesi, di Dio vendicativo. Infatti, però, sì? Posso fare una domanda? Sì, sì. La faccio a tutte e tre, così poi mi rispondete magari anche brevemente o vi dilungate, mm-hmm, come in realtà Mass Effect, la figura di John Shepard è cristologica cioè è costruita proprio per essere, sì, una figura cristologica, cioè, dall'inizio alla fine. Ricordiamo che ti lascia l'opportunità alla ricordiamo fine, che Shepard è morto ed è risorto, a parte gli scherzi, avete perfettamente ragione. No, ma non è uno scherzo, perché era pensato così, significa pastore, quindi no, ma oltretutto tenete presente che in blu fondamentalmente tu diventi Dio, ma addirittura in verde, dove tu praticamente fai questa nuova ascensione, praticamente sei una specie di Gesù spaziale, fondamentalmente. Non so se ci avete fatto caso. Il nuovo Salvatore, fondamentalmente. Sì, infatti, non so, guarda, veramente ti dico, cioè, c'è una specifica caratteristica in un certo tipo di narrativa e mitologia della narrativa britannica o anglosassone, diciamo così, quindi americana, che hanno, insomma, questa visione dell'eroe cristologico, nel senso quello veramente che si sacrifica e va bene. In realtà, secondo me, il Mass Effect a volte hanno toccato anche l'eccesso, e non so se questi sono aspetti che possiamo anche sovrassedere o se vogliamo poi anche analizzare, anche perché sì, veramente, cioè, nel senso, a volte hanno toccato dalla metafora, cioè sono andati oltre la metafora, sono andati anche al palese. Su questo punto di vista, no? Posso però dire che ci sono due o tre cose che mi fanno pensare che invece sia molto agnostica la Mass Effect, perché ci sono alcune... c'è due anime. Sentiamo Luigi. Sì, su cosa in particolare vuoi... Su questo che stiamo dicendo, riagganciati in qualche maniera. Per esempio, Luigi, tu che alla fine che cosa hai scelto come... Sì, allora, dico subito. Mm-hmm. Già il gioco fondamentalmente è basato su una centratura demiurgica di Shepard. Mm-hmm. Se ci fate caso, anche il controllo della Normandy, in cui possiamo scegliere le missioni, le priorità che vogliamo darle, è qualcosa legato proprio al dire io organizzo tutto, io tutto sotto controllo, quindi l'universo dipende da me fondamentalmente, da quello che voglio fare. In questo Mass Effect 3 però ho notato una cosa in particolare, cioè che parlando con i vari personaggi non giocanti, seguendo i dialoghi, ma soprattutto la risultante emotiva delle interazioni, e dava l'impressione come se già l'intera esperienza di gioco fosse cosparsa da un'abbastanza disperata ineluttabilità di fondo, cioè già come se ci si presagisse che qualcosa alla fine non sarebbe andata totalmente per il verso giusto con Shepard per quanto riguarda la sua incolumità fisica. Sì, questo tieni presente, scusami ti interrompo, che è fino alla fine così. Tieni presente che anche quando a Londra tu parli prima di fare la corsa verso il raggio con gli altri personaggi, no? Hai un momento in cui puoi esplorare. Dicono addirittura proprio palesemente, se parli con quel personaggio, quello del DLC, il Protean Javik, lui te lo dice: guarda, che le tue scelte saranno sempre più difficili. Anche le prossime. Sì. La cosa bella è che anche all'inizio, quando risali la Normandy per ritorni sulla Normandy, c'è già questa inutilità di fondo dove si sprecano i termini tipo speranza, gli auguri che ci si fanno. Addirittura la scena bellissima, la preghiera che fa sul letto di morte. Quella mi ha commosso veramente. Non so se avete presente, ragazzi. Io purtroppo l'ho fatto col personaggio stronzo, ho detto no, prega tu che è meglio. Quindi... No, dai, sei una bestia. Vabbè, ma quello perché purtroppo con l'altro finale era morto, per cui non ci potevo fare nulla. Ah, ok, ok. No, praticamente Tain recita una preghiera, praticamente la fa recitare al figlio, a suo figlio, e alla fine Shepard domanda: ma perché c'è bisogno di questa preghiera in cui si parla appunto dell'essere guidati verso la luce, la redenzione, eliminare i peccati? Lui tende già a eliminare i suoi peccati, e allora lui risponde praticamente: il figlio, mio padre, insomma, ha avuto che leggessi questa preghiera non per lui ma per te. Esatto. Cioè, quindi c'è già una sorta ancora marcata di ineluttabilità di fondo, come se ci fosse già il martirio di Shepard programmato in tutto quello che poi sarà a venire. E quindi la figura cristologica la confermo, la figura demiurgica la confermo, e io ho scelto il finale della sintesi. Vi spiego perché. Io penso che tutto il percorso che ha fatto Shepard, se lo abbiamo giocato, mi auguro voi l'abbiate fatto in maniera coerente e cosciente, quindi non essendo incoerenti appunto con verso le proprie scelte, tutto quello che fa Shepard nei confronti del mondo è permeato, diciamo, dalle nostre azioni di gioco. L'universo è fondato sulle azioni di Shepard e quindi ti fa proprio pensare che la cosa che lui debba fare alla fine è proprio immolarsi. Ha salvato vite sintetiche umane, ha permesso la nascita di coscienze sintetiche, ha permesso la loro non distruzione, ha salvato vite umane, quindi che metteranno al mondo altri figli, e anche vite sintetiche, ripeto. Pensiamo ai Krogan, ha salvato anche con la genofagia, quindi la futura prole dei Krogan, sono stati Arachni, li ha risuscitati sì. Vedi, il momento fatale di quando dobbiamo scegliere fra tutte queste opzioni, in fondo ho visto che le azioni di Shepard erano già compenetrate nel tessuto ci vuole sintetico spirituale dell'uomo. Quindi l'unica cosa che restava da fare per me è il passo naturale, cioè sintesi del suo DNA con quello del tutto sintetico e non. Quindi mi sono sentito di dover fare quel passo perché era già contenuto in tutto quello che aveva fatto, nel suo percorso, già nel DNA umano, la storia di Shepard e le sue azioni. E quindi ho detto: diamo il suo coronamento finale facendolo immolare. No, onestamente, adesso voi mi rispondete anche questa a tutte e tre. Mass Effect e Shepard. Assolutamente. Cioè, nel senso che a me se non concesso che BioWare o Electronic Arts o chi per loro si vogliano lasciare il margine per proseguire con la storia, magari raccontando altri tipi di Chronicles, io spero che loro abbiano la consapevolezza che per andare avanti su quell'universo ci vuole un personaggio altrettanto potente e altrettanto ben costruito, perché comunque è uno di quei classici casi dove la storia è il personaggio più che la storia stessa, perché lì il personaggio è stato costruito dalla A alla Z per arrivare da quel principio fino a quella fine. Comunque poi è vero che possiamo fare le nostre scelte, no? Però in buona sostanza Shepard farà comunque il suo sacrificio alla fine, no? È così secondo voi o no? Cioè, nel senso, Mass Effect è Shepard o no? Luigi, parti te, poi Giuseppe, sì, molto, e poi Marco. Molto brevemente. Sì, Mass Effect innanzitutto è un universo coerente di gioco fatto, una grande opera d'amore verso la fantascienza fatta da BioWare e dai creatori del gioco, dai sviluppatori. Quindi è un gioco in cui è stato molto scritto. Ci sono, diciamo, veramente pagine e pagine di scrittura per questo gioco. Quindi fondamentalmente Mass Effect è un universo coerente in cui coagiscono tante realtà, e poi soprattutto John Shepard, che, ti ripeto, è il principio regolatore di questa realtà dove tutti quanti si affidano a lui. Tutti quanti nella storia si affidano a Shepard come se fosse il risolutore, e quindi la Normandy è un hub a questo punto etico, in cui si può scegliere quale missione affrontare, in che modo, e teniamo tutto sotto controllo. Ripeto, secondo me è entrambe le cose, è sia immanenza che non di Shepard all'interno dell'universo di gioco, sono realtà che si scambiano. Non potrebbe esistere Mass Effect senza Shepard, non ci sarebbe Shepard senza Mass Effect. Questa è molto Enrico Ghezziana come interpretazione. Certo. Giuseppe? Ma fondamentalmente condivido le idee di Luigi, quindi è sia l'universo che il protagonista, anche se facendo una valutazione sull'ipotetico futuro a questo punto di Mass Effect, non vedo per forza la necessità di andare avanti quindi Mass Effect questo, 4. Io questo lo penso anch'io. Io in realtà penso che, per esempio, sarebbe, cioè, la butto lì, ovviamente. Poi, se magari BioWare ci ascolta, chiedo i diritti per l'idea. Chiaro, no? Chiaramente. Poi fai pure una donazione, sì, intanto, di orologi di luce. Guarda, la faccio domani, te lo prometto. cioè, potrebbe anche essere, visto che tu questo universo così ben delineato, per esempio, sarebbe interessante un prequel di Mass Effect che sono ambientato nella guerra del primo contatto tra Turian e umani, per esempio. Non vedo perché non potrebbero fare un'avventura, appunto, che quindi fa da prequel. Ma guarda, che sta cosa l'ho pensata pure io, e qui passo, allora, passo la parola a Marco. Ci sono molti format su cui si parla, esatto. Però secondo me sarebbe poco a pill. No, ma più che altro ho visto che c'è proprio, cioè, nel senso, tutto va verso una direzione, verso il futuro, piuttosto che, anche perché hanno non già ho capito detto, perché in realtà, perché hanno già detto di conservarsi comunque i salvataggi. Esatto, cioè, nel senso, in realtà in un eventuale Mass Effect Chronicles di, che ne so, ecco, che come dice Giuseppe, con storie del passato, in realtà i salvataggi del futuro possono, a cazzo, no, ma secondo me cazzo no, magari in qualche maniera, vedi, però, ma guardate, comunque, no, questo salvataggio non è che c'è, cioè, anche un salvataggio un po' diverso da anche di Mass Effect 2, perché il salvataggio di Mass Effect 2 era comunque un salvataggio a posteriori, dopo che avevi distrutto la base dei collettori. Il salvataggio di Mass Effect 3, se guardate, ti riporta prima dell'ultimo della penultima missione, fondamentalmente. Quindi fatto apposta, anche perché comunque con gli DLC, esatto, di giocare un'altra volta, e questo ovviamente sta anche a significare, appunto, la collocazione pure di questi DLC. Cioè, io dubito che metti caso facciano pure un DLC successivo, saranno tutti comunque certo, anche sì, però, però a sto punto, no, fermi tutti, mm-hmm, perché a sto punto che senso c'ha? Cioè, nel senso che, mentre che Mass Effect 1 e 2, ok, la storia arrivava a conclusione, mm-hmm, però il protagonista della storia esisteva, e qui la storia si è conclusa, cioè, nel senso, un DLC che contempli Shepard, che quindi racconti elementi di intermezzo tra, cioè, non capisco proprio che senso ci possa avere, cioè, però un po' come sparare sul cadavere già morto, boh. Perché, questa è la sensazione mia, però poi, ecco, magari prima di andare, Marco non ha espresso la sua opinione su Shepard, Mass Effect Shepard. Sicuramente Mass Effect e Shepard sono due cose molto unite. Separare Mass Effect da Shepard sarà una cosa difficile, perché poi ci sarà da creare un personaggio che riesca a reggere Shepard, una storia che riesca a reggere i razziatori, perché pure i razziatori sono belli forti, si muove le palle, cioè, in un modo o dell'altro si muove le palle, perché se tu mi fai un prosieguo di Mass Effect tenendo presenti tre finali, dove in uno di questi finali i razziatori sono comunque morti, estinti, devi comunque mettere come si dice, devi pensare che non ci sarà nel futuro non ci sono più i razziatori, esatto, per cui non potrai fare una storia che a un certo punto sono morti e poi ritornano fuori, cioè, sarebbe abbastanza stupida come cosa, e quindi sicuramente trovare un sostituto a questi due, che poi questi due fattori che sono il 90% del gioco, certo, non sarà una cosa, sì, hai detto una cosa interessante, infatti, cioè, nel senso che in realtà è un'epopea, cioè è veramente una grande saga che in realtà si è conclusa, ecco perché infatti ti ho detto è più facile andare all'indietro che in avanti, perché i tre finali sono completamente, cioè, per certi versi sono abbastanza variegati e diversi, cioè, come vai a prendere dei tre quello canonico se devi andare avanti? Infatti sono d'accordo con te, però in realtà pure del passato, ecco, come dici, cioè, mm-hmm, però che fai a raccontare che abbia veramente tanto appeal, tanto carisma, quanto questa storia, cioè, saranno comunque delle storie minori, no? Sarà tutto minore rispetto a questa secondo trama principale. Secondo me una gran cazzata l'hanno fatta quando hanno cambiato il finale, e mettere la voce fuori campo finale che ti spiega che cosa succede dopo. E poi su questo, infatti, c'è una domanda per tutti e tre. Secondo me, toccando un po' questo discorso, mettendo quella postilla, se sono bruciati tutti in una possibile storia di ricostruzione galattica, cioè l'unica cosa che potevano raccontare dopo Mass Effect, dopo la distruzione, ricostruiamo, sì, la galassia distrutta, fatta a pezzi, che magari la gente si ammazza tra di loro. quando invece mi vai a raccontare, ah, però adesso la Galassia Unita. A meno che, scusami Marco, il finale che loro prenderanno come canonico è quello del rifiuto, dove il ciclo si è riavviato, quindi comunque no, sì, però ci sono più umani, non c'è più niente. Io però questa cosa non sono d'accordo, perché ecco, torniamo un po' al discorso che abbiamo fatto anche in precedenza con Luigi nelle puntate precedenti, è che o fai un'opera narrativa lineare, ma se non la fai lineare comunque devi tenere in considerazione che qualsiasi dei finali comunque porti a un concetto. Cioè, non può essere che tu inventi una prossima storia che magari ha un finale che parte da un presupposto che è diverso dal mio. Cioè, non può esistere. O che siano stati risparmiati, fusi o distrutti, comunque non possono essere presenti in gioco. Esatto. Non se ne può parlare al massimo. Non ci possono stare. Se ne può parlare, ma non ci possono essere presenti fisicamente. Comunque, vengo alla domanda che invece mi ha fatto venire in mente Marco e che in effetti era in scaletta. Ed è la penultima domanda, diciamo, della prima parte della scaletta. Poi ci sono alcune riflessioni che Peppe vorrebbe fare e che sicuramente faremo insieme a Luigi e a Marco. Allora, diciamo che loro hanno giustificato, loro BioWare hanno giustificato il primo finale come un finale interpretativo, dicendo che hanno cercato di dare un tocco artistico, quindi senza dover approfondire determinate spiegazioni. Ora, questa è una spiegazione che potenzialmente ci poteva anche stare, se non fosse il fatto che in realtà mancavano proprio dei pezzi e quindi quello che loro pretendevano fosse interpretativo in realtà non poteva esserlo, in quanto mancavano gli elementi di interpretazione. Allora hanno aggiunto un finale che in realtà andava a mettere le pezze sugli elementi che mancavano per l'interpretazione, eliminando però la questione dell'interpretazione, perché alla fine, mo, quello che volete, un bellissimo finale, però è uno spiegone. Caro giocatore, mettete a sede che mo te dico che è successo. Cioè, è uno spiegone o non è uno spiegone? Sì, sì. Luigi. Oh, yeah. Sì, ti ripeto, è uno spiegone, è una allungare la pappa, col cucchiaino metterla in bocca al giocatore. Però, ti ripeto, fa parte della concezione narrativa del videogioco stesso. Il videogioco non si è mai risparmiato nello spiegare, anche nel mezzo di una guerra, tutto quello che il giocatore voleva sapere, aveva bisogno di sapere o insisteva per sapere quando ce n'era possibilità. Quindi questo spiegone ci può pure stare, cioè non la vedo come uno scandalo perché va a inficiare lo smalto dell'opera stessa, come molti invece hanno detto. È semplicemente è un'altra anima di Mass Effect, che è la stessa, poi che si manifesta e ti dice sono sempre io comunque, quindi beccatevi sta pappetta e buttate giù tutto. Sì, però hanno cambiato proprio il concetto, cioè nel senso che in realtà loro volevano dare un finale interpretativo che in realtà poi gli lasciava ancora, come ha detto anche Marco, magari aperte delle strade e semplicemente aggiungendo gli elementi che mancavano. Invece non solo hanno aggiunto gli elementi che mancavano, hanno proprio cambiato il concetto di tipologia di finale, quindi cioè loro in realtà sono un po' anche segati le gambe con questa storia, no? Ecco, ma questa è una speculazione che facciamo noi, e magari invece loro hanno talmente un progetto diverso da come adesso possiamo presumere. Beh sì, certo, questo pure è vero, che non gli è interessato sinceramente come hanno narrato, poi hanno cambiato questo finale. Se dovevo fare le mie previsioni, assolutamente sballate, però quelle che presumibili, più logiche, non faranno Mass Effect 4, faranno qualcosa magari ambientato nell'universo con un personaggio diverso, un eroe diverso, che magari potrebbe anche svilupparsi come trilogia, però cambierà qualcosa di radicale, non sarà Mass Effect RPG come lo conosciamo noi. Per fare un esempio, immaginate la differenza fra un Deus Ex, il Deus Ex 2 Invisible War e Human Revolution. Immaginate quindi quell'aspetto lì che ci è arrivato, potrebbe essere un salto simile, non strutturale, stesso tipo, ma proprio tipologico, ma tu dici? Sì, nel senso diranno questo è l'appeal, sappiamo di cosa si tratta, caricheremo anche i salvataggi dell'altro Mass Effect, dell'ultimo Mass Effect 3, però potrebbe essere qualcosa di totalmente slegato da le vicende di Shepard. Potrebbe essere anche il protagonista un figlio di Shepard, perché insomma tutte quelle che si è trombato durante i tre giochi qualche figlio se era scappato fuori. Vabbè, ma poi questi nel 2747 ancora c'hanno sti problemi. Ma che ne sai, in mezzo alla guerra, ma tu che ne sai, sta guerra. Sì, è vero, poi cioè, è una cosa veramente del personaggio. Vabbè, dopo no, non divaghiamo, usciamo perché veramente troppo, se no, perché dobbiamo fare una puntata su Shepard. Perché veramente lui cristologico, gran figaccione, roba del genere, ma cioè dove te ambuco si infilava. Cioè, respira questa, tutto bene. È veramente una cosa indecorosa. Maschi, femmine, alieni, tutto, via. Tutto. Il fatto è che, insomma, conosco gente che ha avuto rapporti soltanto omosessuali con altri personaggi. E quindi come l'ha fatto il figlio? L'avventura finisce lì. Per esempio, cosa che non si presenterà in Dragon Age. Beh, perché in Dragon Age potrebbe esserci il figlio del protagonista del primo. Il figlio di Morrigan. Però potrebbero anche esserselo scordato, perché chissà, non si sa mai. Vabbè, comunque è una bella puntata su Dragon Age, mi piacerebbe farla, perché veramente lì ce ne stanno da dite. Bastonate, due sì. Ovviamente mi prenoto nuovamente. No, anche se poi a me il 2 mi è anche piaciuto, cioè, nel senso, mi è anche piaciuto, ma ammetto oggettivamente che è un gioco limitato in uno spazio, perché secondo me quello non era un gioco, cioè. Poi questo però è un'opinione mia. Aspetta, vabbè. Scusa, comunque col discorso che hai citato Dragon Age, prima che chiudiamo la parentesi, comunque vedi che fondamentalmente lo spiegone che hanno fatto loro è più in linea, comunque, cioè volevano fare una cosa innovativa, quindi un sacco di speculazione per tutti, e basta. Ovviamente tutti i fan si sono incavolati, cosa che non succedeva dai tempi, cioè con una reazione che non succedeva dai tempi, se ci ricordiamo, della morte di Iris di Final Fantasy VII o giù di lì. E allora hanno deciso di rimediare, praticamente tornando fondamentalmente, perché questa cosa io la prevedevo, delle slide eccetera, utilizzando lo stesso espediente che, se noti, che hanno fatto con Dragon Age Origins, perché fondamentalmente in Dragon Age Origins è così, è dopo che distruggi l'arcidemone c'è una serie di slide che ti dicono che fine fa, che fine fanno tutti i personaggi, tutti i vari regni, quello dei nani, quello degli elfi, l'hai presente, no? Sì, quindi che poi è il classico di questo tipo di giochi con molte possibilità di finali. Sì, anche perché mettersi lì a fare delle cutscene, insomma, sarebbe stato un suicidio, penso. Altro che 2 mesi per fare la extended cut, proprio. Comunque, Giuseppe. È uno spiegone o no? Sì, è fondamentalmente quello. Uno spiegone. Sì. È un po' triste però sta cosa. Perché in realtà quello che hanno voluto mettere, il coraggio che ci hanno voluto mettere nel primo finale incompleto, Hanno fatto un passo indietro, o gliel'hanno fatto fare, perché ovviamente secondo me ci sta pure di mezzo il publisher, che vedendo tutta sta reazione contraria della fanbase ha detto dovete in qualche maniera risolvere, anche c'è, perché c'è anche il signor EA andato da BioWare, ha detto ma che avete fatto? E qui devo dei morti. No, anche perché è logico a livello di business, perché in previsione degli altri DLC single player, se il finale fosse rimasto uguale, ditemi voi chi se lo andavano a comprare davvero, ma ti passava la voglia di giocarci. Eh sì, se i finali fossero rimasti gli stessi, questi delle tre esplosioni multicolorate, chi è che per esempio si andava a fare un altro giro tipo da Mass Effect 1, un'altra run ricominciando da capo, facendosi tutti e tre i giochi di fila? Ma io a questa domanda non posso in realtà neanche rispondere, perché, come ho detto anche in precedenza, io non sono uno che rigioca i giochi. Cioè, nel senso che. Anche perché ti si fottono prima. No, vabbè, al di là dell'Xbox che si squagliò nel mentre. In realtà il problema è che l'esperienza che io vivo in un videogioco è un'esperienza unica, narrativamente unica, e per me quella rimane. Come finisce, come con Heavy Rain, no? Nel senso che. Poteva anche morire il bambino, però in realtà non l'avrei mai rigiocato. Cioè, sì. Va bene, allora io direi che in linea di massima, sì, c'è un'altra domanda, ma mentre che discutevamo, ne ho percepito la suprema inutilità. e allora a questo punto entriamo, insomma, in quello che. Giuseppe, io quasi quasi farei un esperimento, ti lascerei un attimo. Oddio. A te introdurre i punti e lasciare la possibilità ovviamente a Luigi e a Marco di insultarti. No, no, no. Come non... nostra tradizione. Gli ospiti non si insultano. Insultiamo chiunque. E di lasciare anche agli altri, ovviamente, la possibilità di, mm-hmm. Di sviluppare, insomma, il tema. Vai. Vado, diciamo così, a sentimento con i punti, o devo andare per forza nell'ordine della scaletta? Ma so, come ti pare a te? Cioè, nel senso, io ti seguo. Va quello bene. Che tu fai, io ti seguo. Va bene, allora. Vado col secondo a questo punto, visto che comunque stiamo parlando di finali prima di passare a teorie e altro genere. Ossia, in pratica, verso la fine dell'anno scorso, quindi quando Mass Effect era ancora in produzione, ci fu, diciamo, una specie dei commenti su Twitter da parte di Drew Karpyshyn, che per chi non lo sapesse è il lead writer, quindi il capo sceneggiatore del primo e del secondo Mass Effect. Per l'esattezza, lui se ne andò verso la fine della produzione del secondo per concentrarsi, sempre da parte di BioWare, su l'MMORPG Star Wars The Old Republic. E tant'è che infatti se guardiamo Mass Effect c'è, diciamo, una certa dissonanza tra i primi due e il terzo, no? Anche a livello di tematiche. Comunque, fondamentalmente lui disse che il suo finale era leggermente diverso, comunque alcune cose sono poi state riprese, altre no, ed era basato tutto su una tematica che in realtà era presente nel primo e nel secondo Mass Effect, chi si ricorda in particolare, che è l'energia oscura, perché l'energia oscura è presente nel primo Mass Effect, poiché è a parte la dimensione dove sono intanati i razziatori, e anche la forza che nell'universo permette il viaggio FTL con i portali galattici, oppure attraverso l'interazione con l'elemento zero, vero, l'utilizzo dei cosa. Poteri biotici. Leggio, no? Sì, sì, esatto. Queste cose, se voi, diciamo, vi prendete Mass Effect 1 e 2 e vi spulciate il codex, ci sono. Nel terzo, assolutamente sì. Nel terzo sono stati rimossi. Addirittura nel secondo c'è un'intera missione che doveva fare da preludio per, appunto, per quest'altro finale alternativo del terzo, che era non Rano, che era aspetta, era la finale, no, non sto parlando del DLC, era durante il gioco, quando tu dovevi andare finalmente, perché era tra gli ultimi personaggi, a reclutare Tali, a salvarla da Hailstorm, che era un pianeta dove ci sono i Geth, se vi ricordate. Ah, sì, il sole che stava, esatto, che stava invecchiando, stava diventando praticamente, quel pianeta stava collassando, diventando una gigante rossa, e questo era dovuto agli influssi dell'energia oscura. Quindi il morale della favola del terzo, quello che almeno voleva fare e aveva, diciamo, su cui si era sbottonato Karpyshyn, che tra parentesi ricordiamo essere anche colui che ha scritto i primi tre romanzi di Mass Effect, era praticamente che l'energia oscura era una forza che stava continuando a espandersi e che avrebbe rovinato per sempre l'universo, posto, diciamo, fine ovviamente a tutte le forme di vita. E quindi sempre si scopriva che, classico plot twist analogo a quello del terzo, che in realtà i razziatori cercavano di portare dell'ordine, no? E per poter, appunto, salvare tutto l'universo, fondamentalmente era il motivo per cui loro facevano questa mietitura del materiale genetico delle altre specie, generando altri razziatori. E questo va anche a spiegare, è più coerente se guardate col discorso del perché nel 2 alla fine loro se ne stavano uscendo con un razziatore umano. Certo. Che è una cosa che, diciamo, alla fine rimane là, lì, vabbè, stanno pure mietendo nel 3, ma non te la fanno, non ti fanno più percepire come se fosse un elemento chiave. Casper però lo spiega questo, perché quest'altro che tutti quanti ascendono. Sì, vabbè, loro, diciamo, hanno fatto una specie, quello che si dice in inglese retcon, cioè quello che vuole di Giuseppe, esatto. Che cioè, l'elemento, il motivo era diverso, esatto. L'elemento energia oscura è un elemento che fa parte del plot originale. Sì, esatto, che quindi avrebbe fatto da collante di tutto e tre i capitoli, mentre invece appunto nel terzo i sceneggiatori hanno preferito proprio farlo sparire, tant'è che infatti nel terzo non trovate una voce proprio energia oscura nel codex. Luigi, scusa Giuseppe, sì. Mm-hmm. Dico, ma questo quasi suona uno svarione alla J.J. Abrams con Lost, no? Nel senso che chi ha seguito il serial sa che per tre stagioni, quattro stagioni, a un certo punto alcuni elementi della trama tagliati, alcuni dimenticati, sì. Poi a un certo punto, se ti vai a ripescare vecchie puntate, dici sì, ma cazzo, sta cosa. cazzo, sta cosa ma mi ha riacceso il neurone, è vero, ma andate da finire. Sì, vuoi una mia opinione in merito? È chiaro, no? Dunque, c'è un bellissimo libro che ho letto, si chiama Tutto ciò che ti fa bene ti fa male. Sì, allora, di Steven Johnson, Tutto quello che fa male ti fa bene. E la spiegazione è perché la televisione, i videogiochi e i cinema ci rendono intelligenti. Ah. È un libro che io vi consiglio, vi faccio tranne subito libri, perché ecco, non li ha messi, eccolo, questa cosa. Eccolo qua. Praticamente lui parla moltissimo delle serie televisive, parla molto, fa un'analisi interessante su quelle che sono anche la continuità narrativa o cinematografica delle opere che sono il cui plot, diciamo, è spalmato in più, a più riprese. In Mass Effect, o comunque quando si fanno queste operazioni trasversali di contaminazione fra libro, videogioco, eccetera, si sta ben attenti a non toccare ciò che poi verrà nel gioco, perché c'è questo rischio, quindi si tende, per non creare anche delle discontinuità o stare attenti o dover mettere pezze a ciò che magari si è scritto e se è stato già pubblicato, si sviluppano fondamentalmente delle parti secondarie. Penso al primo libro di Mass Effect, in cui ci sta la storia del capitano Anderson con una ricercatrice, se non sbaglio, che poi nel Mass Effect 3 si ritrova. Kylie Sanders. Kylie Sanders, esatto. E, si ritrovano praticamente e là tu dici, ah ecco, però nel gioco non è toccato questo aspetto qui, sei tu che lo carichi di quel portato emotivo e di significato perché magari hai letto il libro. Quindi sono più che altro dei richiami che vanno a ampliare in maniera non necessaria totalmente l'universo di gioco Mass Effect. Quindi che dirti, dico che sì, bisogna fare molto attenzione, loro fanno molto attenzione per non rovinare la continuità narrativa o non essere ingenui o peccare di leggerezza nel fatto avere alcune informazioni che non dovrebbero essere dette o fatte o anticipate o spiegate, più che altro. Quindi conta che il lavoro su una trasposizione artistica su più fronti mediatici occupa, fa spendere tante energie, secondo me, anche a controllare che tutto sia organizzato e coerente, almeno per le grandi opere. Ci mancherebbe, poi può succedere di tutto, magari ci possono stare sviste, magari su opere minori in cui si viene detto qualcosa che non doveva essere detto o spiegato qualcosa che è inutile fondamentalmente, però alcune azioni riescono abbastanza bene. Sto pensando a, non so se avete presente Dead Space 2, c'è un DLC chiamato Severed, l'avete presente? L'ho scaricato e lo devo ancora giocare perché l'avevo preso in offerta tempo fa. Io non ho mai giocato a Dead Space, quindi vado tranquillo. È comunque male, mi pare un prequel, cioè prima del 2, ti fa vedere come liberano Isaac. Esatto, è fatto molto molto bene. No, ve lo consiglio perché è una di quelle cose che non c'entrano nulla fondamentalmente, perché sta alla prima di tutto, però emotivamente è carico, quindi ti va a corroborare l'universo Dead Space di quel connotato emotivo ancora più forte e coerente. Quando riescono i DLC sono belli. Simone, ti invito a giocare Dead Space. No, sì, ma in realtà è un problema proprio, cioè sono un po' claustrofobico. allora ti sconsiglio vivamente di giocare. No, è pure strano perché ecco, ho giocato giochi come Silent Hill, insomma, non è che non li ho giocati, è che però quello in particolare quello ti fa venire un po' di caghetta. Ma più che altro mi infastidisce. Non lo so, non ti so spiegare, però ecco, magari quando c'ho un po' più di tranquillità, forse quando attenzione, qui mentre sta cascando tutto. Comunque, Giuseppe ci ha fatto ritornare in mente questa questione dell'energia oscura, tu la ricordavi? Scusami un attimo, per chiudere così, diciamo, faccio una domanda a tutti e tre. A voi. Diciamo, e quindi, diciamo, alla fine lui aveva pure dato praticamente le possibili scelte finali, che erano alla fine solo due, esattamente come il dualismo che c'è nel primo e nel secondo, no? Salvare il consiglio o meno, oppure distruggere la base dei razziatori o meno. E in quel caso era o distruggere fisicamente i razziatori, quindi lui prevedeva che in qualche maniera era possibile la vittoria con mezzi convenzionali anziché con il crucibolo, oppure lasciare che la razza umana venisse mietuta al fine appunto di sacrificarla per il bene futuro, di preservare insomma l'intero universo da questa minaccia dell'energia oscura. Ora, secondo voi, qua, se BioWare avesse cambiato il finale, avesse detto sai che c'è, vi facciamo proprio il finale alternativo seguendo quello che era stato pianificato in origine, quale avreste preferito a questo punto dei due? Beh, iniziamo da Marco, va. E io avrei ammazzato le bestemmie. Dai, vabbè, cerca di approfondire un po'. È dietrologia videoludica. No, comunque questa. Sarebbero stati affascinanti entrambi. Perché mm-hmm. comunque, certo, poi mi devono spiegare come distruggere le razionali. Mm-hmm. Cioè, vabbè, magari con una pulsante autodistruzione che stava lì. Oh, guarda, c'è il pulsante. Il famoso pulsante russo. Sì, pulsante dici, russo che nessuno questo? Deve mai non spingere mai. Non spingere mai questo bottone. Chissà che serve. Però sarebbe stato interessante, certo. Oppure scusami, ho dei buchi, a comandi vocali. Come? Scusami. No, dicevo, oppure venivano disattivati semplicemente a comandi vocali e non lo sapevano. Bastava scendere in strada e dire basta cazzo. Anche sì. No, c'è faceva, gente che dorme. Come faceva Verdone con l'uccelletti, insomma. Diciamo che comunque mancano, ovviamente, da queste indiscrezioni mancano un po' di. Mi mancano un po' di informazioni. Però insomma, alla fine io me ne sarei scelte tutte e due, perché come nei miei cinque personaggi, sì. Cioè, il primo personaggio mio gli ho fatto fare tutti e tre i finali. Ah, sì, perché diciamolo a Giuseppe che Marco, io adesso vi spiego, è come faccio... te, cioè se l'hai giocato tutti io ho cinque i tipi personaggi. Io ho cinque personaggi e tutti i tipi dei finali, quindi. Io ho cinque personaggi. Cioè, il primo che è Marcus Shepard, che praticamente è quello buono, però non sapendo, è quello, il primo personaggio con cui gioco, non so cosa può succedere, quindi potrei fare delle cazzate e comunque qualche sganassa parte. Poi c'è Alina Shepard, la stronza, che praticamente è quella che costi quel che costi deve sempre scegliere la morte, la distruzione. Poi c'è Giocono Shepard, che Giocono è il buonista, quello qualsiasi cosa, sempre scelte blu, sempre scelte buone, che sto giocando adesso, quindi ci arriverò più avanti. Poi c'è Assunta Shepard che è buona però è razzista, quindi quando c'è da salvare un alieno preferisce farlo morire, invece gli umani no, tutto a posto. Poi c'è Felice Shepard, che è l'ultimo che praticamente è buono però non capisce una ceppa e fa soltanto cose sbagliate. Okay. Però è buono, lui fa sempre, cerca di fare cose buone, ma sempre ci metti pure un po' di creatività. Sì, perché sennò è sì. Così infatti è molto interessante, se notate appunto da quello che dice Marco, come alla fin fine Mass Effect comunque è qualcosa che ci spinge addirittura a fare metagaming, metagioco, cioè arriviamo diciamo a prendere delle scelte sulla base insomma di quello che potrebbe essere il nostro... la mente di uno dei personaggi. Esatto. Ok, Luigi, rigiriamo la domanda che hai fatto a Marco a Luigi. Probabilmente Luigi non se la ricorda più, però. Avresti razziato l'umanità o avresti distrutto i razziatori? Sì. Ma se devo rispondere seguendo il mio principio di prima, avrei distrutto i razziatori, perché ho giocato fino a quel punto preservando la vita. Non vedo perché adesso dovrei portare distruzione alla Terra, fare insomma delle cose che vanno contro la vita biologicamente parlando, e quindi andiamo a distruggere questi sintetici per antonomasia. Ma forse ci manca qualche informazione, probabilmente sì. Questa cosa dell'energia oscura, cioè, sì, era un concept, avrebbe... non è stato ovviamente appunto sviluppato, anzi diciamo l'idea poi appunto era stata inglobata in quello che poi sono diventati, cioè la scelta era sacrificare tutte le forme organiche senzienti a fronte dell'evoluzione futura di altre fondamentalmente altre. Era o distruggere i razziatori confidando che comunque la razza umana e tutte le altre razze galattiche avrebbero risolto il problema da soli senza l'aiuto appunto dei razziatori, sì. Oppure delegare i razziatori sacrificando, quindi arrendendosi fondamentalmente. Sì, no, non saprei mai far vivere la popolazione terrestre sotto scacco della schiavitù dei razziatori. Quindi ricordate la sigla di Mazinga Z? Beh, ma comunque che sia il bene o che sia il male, penso che la... quando dice quando tu soffrirai sotto la schiavitù. Bello quel pezzo. Che cos'è la sigla del cartone animato Mazinga Z? Ma no, vabbè, ma chi se lo ricorda? Ragazzi, le parole proprio dice. No, tu ci illumini queste belle saggezze. Di... Ma la pena se ricordiamo quello di Mazinga Z. Sì, quando dice quando tu soffrirai sotto la schiavitù, su dal cielo Mazinger, esatto, sì, Mazinga Z. Cioè, è come a dire, io Mazinger fondamentalmente è Shepard, cioè, cazzo, io ti devo liberare, non è che ti posso fare Mazinga cristologico. Mazinga Cristo, sì, un Cristo Mazinga. No, comunque dico, cioè nel senso, al di là della scelta giusta o sbagliata, al di là di quello che puoi prevedere nelle conseguenze, poi alla fine uno sceglie sempre la sopravvivenza, no? Non è che scegli la tua distruzione. Quindi in realtà, per come era posta, anche se era soltanto un concept, forse era un po' troppo semplice, no? Un po' basica come cosa. Ok, passiamo a quella, diciamo, del pippone, della teoria dell'indottrinamento. Vai. Ah, stupenda quella. Ok, vabbè, per chi comunque, no, per fare un po' di raccordo, fondamentalmente l'indottrinamento è una suggestione che provocano i razziatori. C'è tutta una spiegazione dietro che chi ha giocato la serie si può appunto leggere sempre nel codex. Fondamentalmente è una teoria che hanno partorito i giocatori subito dopo l'uscita del gioco, quindi subito dopo chi è che l'aveva finito, fondamentalmente, per colmare tutte le lacune, i vari plot hole presenti. E fondamentalmente diceva che Shepard, anche grazie al DLC, quello che fa da ponte tra Mass Effect 2 e 3, che Marco aveva detto, arriva all'avvento, era stato praticamente a contatto con un artefatto alieno dei razziatori, e quindi da là sarebbe cominciata, diciamo, quel processo di indottrinamento che avrebbe appunto soggiogato la volontà di Shepard. Ora, ci sono diverse teorie più o meno fantasiose di dove comincia l'indottrinamento, però la cosa curiosa è che tutti i fan si sono messi a guardare tutte queste prove, quindi che so, quando c'è il, per esempio, il bambino, no? Nelle prime fasi a Vancouver, quando stai scappando dall'attacco dei razziatori al quartier generale dell'Alleanza, che tipo lui è sempre visto, questo bambino vicino a, che so, segnali di pericolo, per esempio danger, caution, poi sembra che questo bambino in realtà lo veda solo Shepard, tant'è che infatti Anderson gli dice che stai ancora a perdere qua tempo, andiamo avanti, se vi ricordate. Ci sono poi, diciamo, tutta una serie di indizi durante il gioco, i vari sogni che Shepard fa, il fatto che nel terzo sogno vede tutte queste ombre oleose che vengono anche raccontate dalla regina dei Rachni, il fatto che anche che la stessa versione della cittadella dove Shepard si ritrova dopo il raggio è che fondamentalmente, se notate, è costruita utilizzando texture di diverse texture grafiche di diversi elementi che lui ha già vissuto, che so, l'astronavicella dell'ombra nel DLC di Mass Effect 2, piuttosto che una sezione presa da Mass Effect 1 quando lui doveva tipo raggiungere la sala del consiglio e gli fanno saltare l'ascensore, se vi ricordate. Oppure il discorso che c'è tutta questa cosa strana che Shepard, quando si risveglia, c'ha una pistola con munizioni infinite. Se avete notato, cioè, tutti questi sono elementi che vanno a dire che Shepard fondamentalmente fa un'avventura, diciamo, nella sua mente. Alcuni, diciamo, dicono, stabiliscono che l'effettivo, diciamo, sequenza onirica parta da quando viene colpito dal raggio dell'Araldo. Altri che addirittura risale a all'inizio di Mass Effect 3 o addirittura all'inizio di Mass Effect 2, quando Shepard muore, quindi come se non fosse addirittura mai resuscitato. Fondamentalmente alla fine sono delle speculazioni che comunque lasciano il tempo che trovano, però è interessante vedere come fanno anche venire i brividi, sì, però, sì. Cioè, perché è come l'ultima stagione di Lost, anche qui torniamo, cioè, nel senso che fine deve avere un cazzo, cioè. Però una cosa interessante è che effettivamente a parte gli scherzi, BioWare comunque facendo parlare, generando tutto questo tam tam mediatico dall'uscita ad oggi, fondamentalmente ha tra virgolette indottrinato i giocatori, continuando a, diciamo, a rimurginare su tutte queste cose, tutti questi elementi del gioco, cioè una cosa che raramente comunque ha lasciato il segno, ecco, è questo quello che voglio dire fondamentalmente. Marco? Ha sicuramente fatto in modo, diciamo, che non venisse rivenduto il gioco dopo due settimane. Io personalmente, diciamo, per me, cioè, appunto, lascio nel tempo che trova, non ci credo. Poi, insomma, non so se voi cosa ne pensate, se eravate a conoscenza di questa teoria. Ma pure per me sarebbe un'assurdità, appunto. Esatto. Marco, no, l'avevo sentita pure io, però mi sembrava un po' una cavolata. Esatto. Sì, avevo sentito pure il fatto che perché c'è Vega che sente il ronzio. Sì, esatto. E quello lo sento pure io, quindi sto pure io. Cioè, che significa? Cioè, se c'è il ronzio, è il io motore. Io lo sento sempre, quindi. Io il ronzio lo sento sempre. No, a parte quello, ma si sentiva perché comunque era il ronzio del motore, cioè, è normale. Oppure, se voi dopo che siete stati colpiti dal raggio, se vi girate, c'è lo stesso atmosfera del sogno, che ci sono lo stesso ambiente. Però, oggi mi sono girato. Non c'era, effettivamente c'era quella cosa un po', diciamo, l'atmosfera era un po' simile, però insomma c'erano macerie dappertutto, non c'erano alberi. Quindi, diciamo che è un po' fan di fanboismo spinto questo qui, cercare di giustificare a forza una cagata, perché poi alla fine è stata fatta una cagata. E i fan hanno cercato di giustificare con la loro fantasia la mancanza magari di quella della BioWare. No, io continuo a ribadire che non ci credo, e soprattutto non ci credo perché non ci voglio credere a una cosa del genere. Luigi, sarebbe stato triste. Sì, cioè, forse da pensare un po' che il catalizzatore sia uguale al bimbo che lui ha visto all'inizio. E quello, per esempio, non l'hanno spiegato. Non l'hanno spiegato, ha lasciato aperto volutamente le interpretazioni, anche perché quel bimbo è strano, perché pare quasi che guardi verso Shepard prima che facciano saltare la sua navetta di salvataggio. Che è una bella scena quella, molto particolare, particolare, perché non è caricata, ma cioè molto secca, cioè molto diretta, però è pesante, no? Nel senso, comunque sì, non è pretestuoso, tra l'altro, cioè, ecco, già da lì si può dire che comincia quella ineluttabilità di fondo per quanto riguarda il martirio. Sì, è quello che proprio fa parte, diciamo, il crollo emotivo di Shepard. Eh sì, quello è un biglietto da vista per dire ecco come sarà la natura, le ombre con cui dovrai scontrarti da qui in avanti. Però sinceramente la teoria dell'indottrinamento non ce l'ha. Ho visto anche l'altro finale, ripeto, a parte quello iniziale, non c'erano elementi che lasciavano presumere una cosa simile, nemmeno accennati, cioè fa quasi pensare davvero che sia una grossa speculazione fatta dalla comunità, sia di quelli che vivono dentro BioWare, quelle comunità che frequentano BioWare, sia di quelle che stanno fuori, insomma, nei forum generalisti. Però non ce la vedo l'indottrinamento. No, io l'unica cosa che posso dire, la cosa che ho notato, cioè la prima cosa che mi è venuta in mente è il bambino che invece di farsi aiutare se ne va, no? E penso che sia la cosa tendenzialmente, in una condizione come quella, tendenzialmente più innaturale del mondo, perché io penso che sia proprio l'istinto più normale per un bambino in una situazione di disastro, vedere qualcuno che gli tende la mano e andare verso la mano. Simone, tra parentesi, se noti, quando c'è un po' relativamente alla scena che hai detto della navicella che parte e viene distrutta, no? Quando stanno caricando i superstiti a bordo, se noti, aiutano tutti meno che il bambino. Il bambino sale da solo. Cioè, sicuramente il bambino è una figura narrativa, potrebbe anche non essere mai esistito, no? E questo ok, che però faccia parte di tutto questo discorso che abbiamo fatto, fino addirittura ad arrivare al fatto che è tutta una grande allucinazione del Shepard, insomma, mi sembra un po' troppo, no? Beh, può essere pure che lui sia il catalizzatore che ha preso in sembianze umane perché Shepard ha il, come si chiama, il decodificatore che ha Shepard, il cifratore, il cifratore, sì. Il cifratore, e quindi fondamentalmente lì si manifesta per poterlo guidare fino alla fine, eventualmente, come se fosse una sorta di angelo che deve morire apparentemente affinché possa entrare nei suoi sogni e rafforzarlo psicologicamente a Shepard durante la missione. Sì, comunque la scena, in effetti, analizzandola, c'è ragione anche Peppe, perché cioè il bambino sta là, guarda Shepard, Shepard guarda il bambino, nessuno aiuta il bambino, il bambino entra dentro l'astronave e chiaramente poi dopo ritorna su tutti i sogni, gli incubi, i cazzi e mazzi, ma io ci tengo a precisare che non supporto la teoria dell'indottrinamento, era solo, diciamo così, uno spunto che mi era... No, è che dà uno spunto sul fatto che comunque la figura del bambino va sicuramente interpretata, questo senza dubbio, voglio dire, anche al fine del fatto che comunque quando lui è lì insomma a parlare con questa intelligenza artificiale, alla fine Casper è il bambino, cioè nel senso, quindi comunque il Shepard è normale. Beh, normale è una parola grossa, no? C'è Casper, che bello, cioè, capito, però insomma è chiaro che sì, il bambino è più una visione, cioè è una visione, è una metà, è un po' il fumo di Lost. Il fumo nero, sì, il fumo nero. Dato che oramai abbiamo trovato queste due chiavi di lettura, che da una parte è Deus Ex e da una parte è Lost, quindi... Vai. Ok, allora a questo punto ci spostiamo, diciamo, sulla saga, vabbè, ovviamente dando sempre maggiore attenzione al terzo capitolo. Secondo voi, quali sono le tematiche effettive poi alla fine di tutta la fiera che affronta Mass Effect? E in particolare il terzo, cioè, per esempio, quelle che ho visto io sono, per esempio, appunto, come scrivevo, il potere e la forza attraverso la cooperazione, l'alleanza di tutte le specie intergalattiche, oppure ovviamente il conflitto tra uomo e macchina, o magari il sacrificio per un bene più grande, non so, voi cosa ci avete visto, insomma. Guarda, posso rispondere io per primo? Sì, sì. Allora, a parte che la tematica generale di Mass Effect, secondo me, è il sesso vestiti, che è la prima cosa, cioè, nel senso, che è la stessa tematica poi che c'è in Dragon Age, no? Sì, sì. Posso dire una cosa, così la racconto, perché l'ho già detto, non mi ricordo dove, però c'è Morrigan in Dragon Age che è nuda praticamente sotto, no? C'ha questa zizze mezze di fuori, però quando trombano è vestito, cioè c'ha il reggiseno, c'ha le mutande, cioè nel senso BioWare le cose o le fai o non le fai, no, dai. Ma non è perché le devi fare, perché, cioè, però un minimo sensate, no? Nel senso... sì, hanno più senso quelle di The Witcher 2, per esempio. Là sono scene di nudo integrale. Hai aperto una porta, hai spalancato una porta con Marco, è diventato il tuo migliore amico, insomma, perché... comunque detto questo, io ho soltanto da dire una cosa e poi lascio la parola e vado a rotazione con Luigi e Marco. Che Mass Effect non aggiunge niente di originale all'interno della narrativa di fantascienza. No, cioè, no, nel senso... esattamente, ma vede, per esempio, tanto per darti un'idea, il tema degli alieni che fanno la mietitura c'era nel ciclo, per esempio, di fantascienza di Berserker di Fred Saberhagen, per darti un'idea. Sì, ma anche non è inventato BioWare, non si è inventato niente, sì, sì. No, è come dice Luigi, è una grande space opera, dove per space opera non si parla soltanto di fantascienza, ma si parla anche dell'aspetto tipicamente fantasy, diciamo, della concezione dell'uomo come prescelto in quanto salvatore verso una soluzione, e la cooperazione dei popoli al fine di distruggere il male, no? Che poi è gli stessi identici principi di Dragon Age, così come della Spada di Shannara, così come del Signore degli Anelli, così come probabilmente anche Guerre Stellari e cazzi e mazzi, insomma. Questo è, penso che, ciò nonostante, forse perché era interattivo, forse perché comunque in qualche maniera ha saputo creare un'atmosfera anche musicalmente, rimane comunque, secondo me, nel senso, un qualcosa che ne è valsa la pena l'aver vissuto, insomma. È proprio una gran bella saga. Abbiamo fatto tante saghe. È proprio una gran bella saga. Luigi, tu cerca di dare il meglio di te, perché questa è la domanda per te, È stanco Luigi stasera. Mi stai caricando le aspettative. E quindi c'hai l'ansia da prestazione. Sì. Come, che posso dirti? Sì, una grande space opera, è un'opera di narrazione. Mi ricordami un attimo cosa hai detto all'inizio. Hai parlato del all'inizio del tuo intervento, Simone. Del mio intervento adesso? È una parola. Sì. Capirai che batta a ricordare quello che ho detto. No, aspetta. Del fatto che non è originale, cioè nel senso. Ah no, ecco, della non originalità. E come si raccontano le cose, che è magnifico, esatto, in Mass Effect, è splendido, e rende diverso il messaggio. Ci sono tantissime opere che sono dei capisaldi a livello strutturale, delle tematiche legate alla science fiction, che però non vengono diffuse o distribuite naturalmente, non c'è il passaparola o altro, perché sono tediose. Molte cose sono davvero... non le puoi leggere perché non danno quella spinta, quell'in più di spettacolarizzazione o di quel cliché magari che ogni tanto ci vuole, perché emotivamente ti coinvolge. Mass Effect è una continua lotta affinché tu possa risultare coinvolto emotivamente e fisicamente, dal punto di vista anche del gioco, dell'interazione. E questo per me è splendido di Mass Effect, cioè ti racconta una storia facendotela giocare in maniera esaltata, facendo sentire davvero il protagonista. Io sfido chiunque a sentirsi a contare da qui a tutti i giochi che ha giocato dove si è sentito davvero protagonista delle proprie azioni e si è legato emotivamente al personaggio. Difficilmente ce ne abbiamo uno che è così intensamente in grado di coinvolgerci, di farci sentire lui, il personaggio stesso. Ma io immaginate tutti i personaggi che hanno i tutorial all'inizio in cui c'è la creazione del personaggio. Ma vi sto parlando di Fallout, all'ultimo Dragon's Dogma, dico proprio personaggi che è possibile rendere customizzabili o meno, che però hanno una forte identificazione, nutrono, insomma, sono votati a questa empatia con il giocatore. Per me Shepard è, non so, è una delle cose più azzeccate, più coinvolgenti che mi sia mai capitato di vivere in una storia legata a un... Guarda, faccio un'aggiunta a questo che dici tu, scusa se ti interrompo, ma poi se non la dico subito me la dimentico. È che in realtà ritorniamo a Heavy Rain è un gioco totalmente narrativo, dove il gioco è relegato, no? Nel senso, è comunque una parte marginale della narrazione. In realtà Mass Effect riesce ad essere un gioco narrativo al pari di Heavy Rain, dove la narrazione è comunque la parte predominante. Il gioco è comunque un supplemento, pur essendoci, cioè nel senso, a differenza di Heavy Rain, il gioco c'è, non è che non c'è. C'è più gameplay, sì. C'è più gameplay, però ha lo stesso valore e lo stesso trasporto dal punto di vista narrativo, dove poi appunto il gameplay diventa semplicemente funzionale al fatto che c'è la storia, non viceversa, come è successo quasi sempre nel mondo dei videogiochi. Chi si aggancia? Sì. Vai, tocca a Marco. Stavo continuando, Luigi, mentre l'ho interrotto, poi dici che si aggancia. C'hai ragione, vai, finisci, scusa Luigi. No, io ho terminato qui. Ok. Assolutamente, il tuo intervento è poi calzante, assolutamente pregevole. Vai, grazie, poi detto da te, veramente questa sera non dormirò molto facilmente. Marco. La domanda qual è, cioè fondamentalmente, fammi capire, cioè secondo te... Giuseppe, allora io in realtà ero partito più che altro dicendo secondo voi quali sono, diciamo, le tematiche più importanti che affronta Mass Effect, cioè Mass Effect 3, e comunque che vengono trasportate magari anche dal primo, cioè, che cosa ci avete letto, ecco, dietro Sicuramente l'integrazione che faceva Simone, io sto dicendo, perché mi sono un po' perso su. No, in realtà la domanda che ha fatto Giuseppe, poi io l'ho un po' trasformata dicendo che non cioè in realtà il mio concetto è che non ne importa neanche quello che si sta dietro, sono i concetti che porta avanti Mass Effect, che sono quelli della cooperazione, dell'unione tra le razze, del sacrificio e tutto quanto, perché non sono elementi originali o assenti in altra fantascienza, quanto, come dice, come ha detto giustamente Luigi, il fatto che questi elementi sono ben raccontati, e quindi poi alla fine il gusto sta nel fatto di aver vissuto questa storia ben raccontata. Tu, per esempio, potresti dire: per me Mass Effect comunque rappresenta il racconto, cioè nel racconto io ho trovato l'integrazione tra le razze, perché ho trovato che era interessante. Ho capito, mi è trasmesso questa cosa, che attraverso la forza, la cooperazione, come dici tu, il sacrificio, si può aiutare, si può riuscire a trovare chiunque. Fondamentalmente, in effetti lo sai qual è il problema? Tutto e tutti, che questo fatto delle scene di sesso di Mass Effect, in qualche maniera, finisco che in qualche maniera un po' lo squalifica, perché poi alla fine dice: viene da fare la battuta anche quando stai a parlare seriamente, no? Nel senso che anche se io volessi c'è la possibilità, che fai, non lo fai. Vogliamo parlare della scena di sesso più imbarazzante di tutto il gioco finora, perché poi non so se ce ne sono altre. Quello tra Trainor e uno Shepard donna dentro la doccia, Shepard vestito e lei in reggiseni mutande, perché ti fai la doccia in reggiseni mutande e vestito anche, soprattutto vestito, ci sai, io intanto mi butto vestito, poi vediamo quello che succede. Il problema è chi già sta dentro la doccia, che, insomma. Giuseppe, insomma, Trainor non è gay. Che hai detto? Trainor è il guardia marina, diciamo, quello che fa, che fa le veci di Kelly nel terzo, fondamentalmente. Le ha dette le comunicazioni. Ah, scusami, hai ragione. Quella sto confidendo invece con Cortez. Cortez. Quello, se vuoi, te lo puoi trovare. Esatto, sì, perché Mass Effect 3, ricordiamo, la differenza dei primi due, diciamo, ha dato più. Ormai è stoganato. Esatto. È più proprio. Airbus è stoganato. Vabbè, no, in realtà poi l'omosessualità, cioè, c'era già, nel senso, in tutti e tre i capitoli, così come nei due capitoli di Dragon Age, era più, diciamo, un po' più soft. È che secondo me proprio è la parte meno riuscita. Sì. No, al di là è stata criticata per tanti motivi. Io non la critico a priori. Allora, nel terzo, secondo me, però il problema è fatto proprio male. Terzo è meglio, perché a parte la scena del sesso vestiti sotto le docce, però mentre nelle altre, forse anche nel primo, perché comunque nel primo potevi scegliere tra due personaggi, anche se poi potevi inciuciare fino alla fine con tutte e due, e poi devi scegliere uno. Nel 2 era proprio un'orgia continua. No, sul 2 era proprio dopo io. Qualsiasi cosa respirava, tu vieni qui, ti butto sotto e poi proprio insieme ai razziatori. Nel terzo, invece, praticamente a un certo punto del gioco, quasi all'inizio, devi fare una scelta. Ok, voglio stare con questa che era l'amante del primo, questa è l'amante del secondo, voglio cominciare qualcosa di nuovo. Dopodiché hai fatto quella scelta, nessuno ti caga più. Esatto. Devi per forza andare con quello lì. Quindi qui si sono un po' più regolati. Che è anche più coerente, no? Infatti. Nel senso, per certi versi, perché, anche perché io voglio dire, tu puoi essere anche il più grande piacione dell'universo, però stai a combattere contro l'estinzione dell'umanità è vero che tra un viaggio tra una stella e l'altra magari c'è un po' di tempo da perdere, insomma, però cioè, la prima scena, io mi ricordo che nel secondo, che era quella detta alle comunicazioni, la psicologa va là, cioè, fai un po' il piacione, 2 minuti ci hai messo, e vabbè, lì poi tra l'altro non c'è neanche la scena, però da lì in poi i pesci sono sempre nutriti. Ti venga a nutrire il pesce, no, ma questa ma è la cosa, addirittura venga a sfamarti il pesce addirittura questo. Nel secondo, se tu riesci a salvarti i pesci dopo l'attacco dei collettori, c'è una stringa di comunicare, che non so quale sia, però praticamente puoi fare in modo che Trainor, quando la rivedi nel 3, ti dà un pesce che non puoi ottenere in nessun altro modo, neanche comprarlo nei negozi, che tipo ti dà poi un incremento ai poteri attraverso le ricerche quelle di Liara nel suo ufficio sulla Normandy. però diciamo così, era una chicca, un easter egg. Esatto, sì, è pieno di trovate, di cose particolari. Vabbè, ma questo ci sta anche, tra l'altro un po' arricchisce anche se molto secondariamente, insomma. Certo, non mi metto a rigiocare. Direi che possiamo arrivare anche all'ultimo punto. Sì, infatti stavo per dirti la stessa cosa. Perché poi c'è una domanda che voglio fare a tutti e tre. Ah, ok. Vabbè, comunque nell'ultimo punto, ricollegandosi a quello che aveva detto all'inizio Luigi più di un'ora fa, praticamente lui aveva appunto accennato a questo che nel codice dell'Extended Cut si trovavano dei riferimenti al prossimo DLC in single player, che a quanto pare ha la denominazione come esce come Leviatano di Dis. Fondamentalmente un razziatore che si è ribellato con una sua coscienza, insomma, che alla fine questo DLC, che ovviamente ricordiamo si inserisce all'interno di Mass Effect, quindi non dopo la fine, e che fondamentalmente sicuramente fornirà altri war assets nel gioco. Se siamo fortunati vedremo qualcosa, qualche scena nel finale, ma non ci credo io personalmente. Comunque, secondo voi tutti questi DLC ambientati prima della fine di Mass Effect 3, e quindi durante il corso del gioco, che appeal hanno, diciamo, alla luce di tutto quello che, soprattutto dell'Extended Cut? Cioè, voi per esempio li rigiochereste? L'unico appeal che ci può avere è il fatto che se io sono una persona intelligente il gioco non me lo compro al day one, ma aspetto un anno. Perché veramente, cioè, nel senso, a me mi è capitato qualche volta. Io per esempio Dragon Age Origins su Mac me lo so comprato con tutti i DLC, no? Sì. Tutte le espansioni e tutto pure quanto. Troppi, così, pure infatti, troppi, dopo un po' due palle, perché poi no. Però tutto di seguito, capito? E in realtà, cosa che invece è successa proprio con Mass Effect 2 o 1, non mi ricordo, Marco. Te lo ricordi? 2, perché l'uno c'era quello che hai cominciato, ce l'avevi, ma non l'hai mai installato. Bravo. E quindi hai bestemmiato perché non potevi rigiocare. Allora, c'era un DLC che io, ovviamente, nel senso, è uscito dopo quello che io l'avevo finito. Però dopo che tu hai finito, non lo potevi. Cioè, nel senso, Bring down the sky. Sì. Esatto, dovevi andare per sky per chi salvataggi. Per me, impatto imminente sarebbe. È una cosa inaudita, cioè per me non sta né in cielo né in terra. Cioè, nel senso che io una cosa, cioè, ribadisco, sempre per il modo in cui io vivo il videogioco in senso narrativo. Per me, se è concluso, è concluso. Se tu mi fai un DLC, non può essere all'interno della storia. Per me non. Infatti, c'ha senso quello che, per esempio, hanno fatto con le espansioni di Dragon Age. Perché comunque in qualche maniera ti raccontano delle storie aggiuntive. Sì. O alcuni aggiungono delle cose all'interno della storia principale. Però, insomma, voglio dire, se ce l'hai o non ce l'hai. A parte i personaggi, insomma. Sì, vabbè, però insomma, ce l'hai o non ce l'hai, sì, fa poca differenza. Sì. Però se tu mi devi aggiungere un pezzo di storia, un pezzo di gioco, roba del genere, per me. Poca differenza, un par di ciufoli, perché comunque si tratta di un gioco di ruolo, quindi più missioni, più esperienza o più personaggi, perché ricordiamo comunque più esperienza, sì, cioè, se tu quel personaggio me lo dai subito e mi fa fare la subquest, è comunque un tot di esperienza e di poteri in più, quindi mi puoi far diventare il gioco tra virgolette più facile o meno. La stessa cosa con i vari Zaid, Mokotoli, come cacchio si chiama? Kasumi, esatto. Kasumi mi sta pure simpatica. Vabbè, ma una volta che ti sei finito il gioco, no? Sì, cioè, che tu mi hai fatto comprare. È quello che ti dico, infatti. Cioè, ma hai fatto finì. E dopo 3 mesi abbiamo un altro personaggio, ma di mortacci tuoi. Io te lo dico anche così. Ma infatti, non mi ricordo perché, ma ce l'avevo già nel. Perché tu hai comprato quella versione. Cioè, nel senso, quando l'ho giocato, non l'ho giocato di fretta in furia, l'ho giocato quando erano usciti. Non c'avevo Zaid. Che tra l'altro è uno dei personaggi. Me ne farò una ragione. Che secondo me valeva la pena di approfondire. Perché, insomma, non solo, ma per esempio la missione di lealtà di Zaid, dove se ti ricordi lui va. Fa un cazzo, qualsiasi cosa fai ti dà la. Comunque la fiducia è condizionata. Sì, no, aspetta, dico, però se ti ricordi la missione era fondamentalmente andare a vendicarsi su quello che aveva preso il controllo. Tra parentesi, sto tizio, se notate, è uno dei personaggi che non si rivede più e non sai più che fine ha fatto in Mass Effect 3. Diciamo che Mass Effect 3 ha ripreso tanti personaggi, però ha lasciato, diciamo, alcune scelte del giocatore fatte nel primo e nel secondo di alcune missioni, proprio le ha lasciate così in sospeso. Se notate, cioè non è arrivata a chiudere esattamente tutto, anche diciamo le plotline secondarie. Ma forse quella era anche voluta che fosse, che rimanesse così, perché o lo ammazzavi subito o non l'avesse ammazzato più. Questa era un po' la... Ma per esempio Balak, il tizio, il Batarian, quello di Impatto Imminente, ritorna nel terzo. Non lo so, perché Impatto Imminente l'ho giocato soltanto con Felice Shepard, e quello devo rigiocare. Per cui in che condizioni torna? Perché io tra l'altro l'ho lasciato scappare per mutande. Che condizioni? No, ti fa una missione, diciamo, fai una missione dove devi scoprire, diciamo, perché c'è qualcuno che sta danneggiando l'alleanza. Poi, diciamo, punta alla tempia alla fine della missione, punta alla tempia di Shepard la pistola perché si vuole vendicare. Tu puoi decidere se praticamente farlo ammazzare perché c'avevi pure un altro personaggio che ti seguiva, oppure riuscire a convincerlo. In quel caso sono altri war assets in più, ma non di Impatto Imminente. Era di Impatto Imminente, sì, cioè. Balak era il terrorista Batarian, sì sì, del primo. Perché io per esempio l'ho fatto per aprire le cose, le cazzate che magari fanno. Questo tizio qui io l'ho incontrato sempre che mi punta, che sta probabilmente ai moli d'attracco, no, moli dove stanno tutti i rifugiati, insomma. Eh sì, è quello là, la pistola. Però io non l'avevo giocato lì. No, perché questo vai ad aprire un altro discorso, ossia il fatto che alla fin fine le scelte di BioWare sono più o meno apparenti. Cioè, quel tizio là è un altro, se non hai giocato Impatto Imminente, è un altro Batarian. Come per esempio se tu hai sacrificato alla fine di Mass Effect 1 tutto il consiglio, sai che c'è in Mass Effect 2, ci sono altri membri del consiglio che sì, hanno rimpiazzato, esatto. Cioè sono le finte scelte BioWare. Non so se l'hai mai fatto, ma io per esempio ho finito il gioco, adesso piccola parentesi. Vabbè, sì, poi stringiamo. Sì. Ho finito un Mass Effect con un personaggio dicendo ok, faccio diventare Anderson capo, no, Udina, faccio diventare Udina capo del consiglio. Del consiglio. Poi al secondo, quando ti portano dall'uomo misterioso, ti fanno le domande, chi hai fatto diventare Anderson? Perché ho cambiato. Ah, sì, no, quello di Anderson è ancora peggio, perché quello di Anderson, se tu invece alla fine del primo dici che diciamo dai l'incarico ad Anderson, poi lui comunque, a prescindere da questo, nel terzo all'inizio del terzo ritorna ad essere ammiraglio perché non gli piaceva questo incarico a prescindere, però proprio, cioè, tu dal primo al secondo puoi cambiarlo a prescindere con una scelta del cazzo, quindi bellissimo. Vabbè ragazzi, io direi che prima di farvi la domanda conclusiva volevo sapere soltanto una cosa e poi veramente andiamo alla conclusione, perché insomma penso che siamo andati già belli larghi. Qual è ovviamente escluso Shepard, il personaggio che vi è piaciuto di più? Stai zitto tu, per favore. Lo so, ti ho letto nella mente. Ma no, ma lo so chiedere a loro, non lo so di io, cioè non lo voglio dire io, lo voglio sentire da loro. Qual è il personaggio che vi è piaciuto di più nella trilogia di Mass Effect? O personaggi? No, un personaggio, uno. Personaggio uomo o donna, che sia maschio o femmina che sia, insomma. Partiamo da Luigi. Oddio. Non è facile fare, cioè, nel senso, allora, il personaggio che mi è piaciuto di più, beh, si intende il personaggio che veramente c'ha più spessore, più approfondimento, più carisma, più storia, più personalità, insomma. Guarda, a me piace molto Tain come personaggio, come storia. Mi è piaciuto Zero quando lo andiamo a salvare nella sua... Tain è l'assassino, sì, quello, l'assassino Andrello, sì. Quello per me è spettacolare. Okay. Poi Zero, per quanto riguarda la sua storia, mi piace quello che ha passato, che ha vissuto, che l'ha resa uno sfascio, una cosa deprecabile, però ci sa fare. E mi è piaciuto moltissimo anche Legion. Legion. Quando fa la domanda, quest'unità ha un'anima, è spettacolare alla fine. Lei è concentrato tantissimo nell'immaginario science fiction. Proprio. Beh, Legion è veramente un gran personaggio, però Luigi uno, ne sceglie uno. E mi devi dire pure il perché poi. Oddio. Lo so. È come quando ti dicono qual è la canzone che ti piace di più. Scelgo Legion perché così non vado a scontentare tutti gli altri umani. Gli scelgo un sintetico. Almeno non si offende, dici. Non si offende, sì. Va bene, un sintetico. Ok. Giuseppe. Allora, io invece punto direttamente sul professore Salarian Mordin Solus. Perché diciamo è un personaggio che parte con una certa connotazione, cioè lo vedi nel 2, insomma, tutto pragmatico, che anzi quando ci parli ti giustifica effettivamente che insomma la genofagia era un male necessario, no? E poi insomma come si redime alla fine, pur diciamo di come posso dire di respiare le proprie colpe, è deciso ad andare in fondo sacrificando appunto la sua vita sulla torre, se ti ricordi, per curare, per diffondere la cura su tutto il pianeta dei Krogan. E poi insomma, e poi mi piaceva anche quando nel 2 e anche alla quando fine canta. Esatto, quando canta poi insomma è tristissimo. Poi lo rifà anche nel terzo. Sì, sì, quando sta per saltare che non arriva neanche a terminare la canzone, sì, sì. Che poi la cosa allucinante è che tu puoi anche tradirlo. E questo sì, è vero. Puoi anche tradirlo, puoi anche tenere in vita, lo puoi anche ammazzare, sì, sì. Diverse situazioni. Marco? Io pure avrei detto Mordi, a parte i personaggi femminili, quelli che mi sei ovviamente di compagnia, però quelli che mi stanno più simpatici fondamentalmente sono due, che poi uno è Mordin, io devo dire, l'altro è Garrus, che veramente se io dovessi andare a fare una guerra Garrus. Mi porterei Garrus se dovessi andare a fare una guerra, neanche Grant, neanche il Krogan, perché li sono matti. Ma Garrus è sempre averlo a fianco, assolutamente, con un fucile di precisione. Perché è un personaggio leale? Perché è un personaggio leale, ma poi perché è un personaggio che comunque poi alla fine è pure simpatico. No, ma poi Garrus è forte perché ha anche un altro personaggio tra quelli meglio caratterizzati, ed è bello vedere dal primo, diciamo, fino al terzo la sua evoluzione, no? Prima, diciamo, un semplice poliziotto così timido, praticamente verso la fine del 3 è diventato tipo il Batman del futuro, praticamente, il giustiziere del futuro, se noti. Io non lo dico chi è il mio personaggio. No, soltanto che c'è le zizze. No, ma in realtà no, guarda, ti devo dire la verità che in effetti stanno in finale Samara e l'assassino lì. Kane. Ma in realtà, perché a me piacciono in generale i personaggi più mistici, quelli più riflessivi, quelli che hanno un qualcosa da dire, il modo in cui te lo dicono, no? Quindi il modo in cui ti raccontano le cose. Però sicuramente è così, Thane forse è il personaggio con più originalità e più spessore di tutta la saga. Poi chiaramente tutti gli altri sono fighi, non lo metto in dubbio. Però ecco, il momento in cui lui raccontava le cose, quando c'era i flashback, i ricordi, proprio anche registicamente, era una bella trovata, forse a volte un po' ripetitiva, però era una bella trovata, era un bel personaggio, c'è una bella storia anche, sebbene poi, soprattutto la sua missione, si chiude un po' a cazzo di cane, perché sta cosa del figlio, che poi alla fine non si vede, poi sì, è tutto risolto, stanno dentro, hanno chiacchierato. Però il personaggio è Samara, perché per la stessa ragione, perché quando comunque tu ci andavi a parlare c'era sto tono molto lei, vabbè, cioè, poi, ma lì era proprio il tipo di personaggio che era, che era ben costruito, era ben fatto, nel senso che stereotipato per quello che doveva essere, era fatto bene. A differenza invece alcuni personaggi che avrebbero dovuto essere personaggi principali, soprattutto femminili, e che sono personaggi principali, Miranda. Miranda è una gatta morta. Da Miranda alla puffa lì, cioè. A Liara. Liara Tassoni. Cioè, boh. No, nel senso sì. Miranda è una gatta morta. Miranda è una gatta morta, però c'ha cioè, tutto pure quello, no, vabbè. Liara, beh, Liara un po' di spessore hanno cercato di dargli al secondo, non è mai stato incisivo. Non è. Quanto la sua posizione nella storia, cioè nel senso comunque lei è in teoria è la fidanzata di Shepard, ma dipende, no, nel senso che in teoria potrebbe essere, comunque era stata progettata per essere una possibile fidanzata, la fidanzata di Shepard, e non è comunque l'ombra, cioè un personaggio clou, però niente, proprio comunque diciamo a Liara specialmente nel 3 danno più risalto, è vero, perché se no te la fanno vedere, te la fanno trovare sin da subito, c'hai tipo è lei che ha l'idea di creare quella sonda che poi nel finale rifiuto si trova, è lei che in ogni caso a prescindere dal fatto che c'hai la tresca amorosa o meno, vuole condividere con te quella cosa che sembra tipo la fusione vulcaniana, hai presente? Sì, ovviamente il mio personaggio cattivo ha detto no, lasciamo stare, fottiti. Il personaggio cattivo rifiuta tutto. Vabbò ragazzi, allora questo finale di Mass Effect è arrivato, l'abbiamo giocato, mm-hmm. l'abbiamo sviscerato in tutte le maniere, poi abbiamo anche approfondito Mass Effect in varie altre salse, cioè nel senso anche andando a toccare punti insomma della saga che comunque sono stati rilevanti secondo Giuseppe e ovviamente poi ci ha dato spunto anche di riflessione. Io, se vogliamo fare una riflessione finale, libera, molto free, partendo da Luigi e poi andiamo veramente a chiudere questo episodio, pure perché ci sono alcuni commenti, ci sono vari commenti all'episodio, però tutti da stessa persona. Però con diverse personalità. Però con diverse sfaccettature, quindi insomma con la gioia di Luigi. Vai Luigi. Dunque, su Mass Effect dico che è un'opera profondamente legata alle azioni del giocatore, quindi sono davvero riusciti nell'intento di far sentire il giocatore coinvolto in quello che si fa, ed è fondamentale perché cambia lo spirito di gioco e del giocare, e non si commettono, diciamo, se giocato bene Mass Effect, quelle leggerezze che invece gli altri giochi fanno perdere molto dell'aspetto dell'incredibilità, della sospensione, della, come la chiama Peppe? Sospensione della Peppe. Giuseppe, ci sei? Mo sei andato Giuseppe. No, Giuseppe. No, scusa, aspetta, avevi lanciato a meno perché mi ero distratto, pensavo che stesse continuando. Sì, sì. Vabbè, come commento finale, fondamentalmente ti posso dire che per me è... Aspetta. Ti ho chiesto una mano, Giuseppe. Qual era la chiamata per la sospensione dell'incredulità? Of disbelief. Incredulità. Okay. Niente, dicevo appunto che Mass Effect riesce benissimo a giocare su questo filo continuamente della sospensione dell'incredulità e riesce a essere coerente con se stesso. E vi assicuro insomma, che un'opera così grande, con tante linee di testo, tante relazioni, tante cose da fare e conseguenze poi a quello che si fa, quindi anche cambiamenti nelle frasi, nelle radio, per dire, dopo che Shepard ha fatto un'azione, sono indice di un grandissimo sviluppo e di una grande amore per il videogioco, per cui concludo dicendo che grande amore per il videogioco è Mass Effect, e a questo punto grande podcast per i radio podcast e dietrologia videoludica. Giuseppe. Vabbè, io fondamentalmente la butto molto più sul personale, per me Mass Effect è stato un viaggio lungo 5 anni, un'esperienza, è stata anzi la mia esperienza, l'esperienza del mio Shepard, di Joseph Shepard, che comunque mi ha accompagnato in questi 5 anni, mi ha permesso di conoscere quelli che, diciamo, degli amici, chiamiamoli così, di affrontare o comunque imparare a prendere delle decisioni, e mi ha fatto vedere anche annusare un pochettino di sesso e che comunque per me, anche qualora un domani non dovesse esserci un proseguo eccetera, comunque sono stati 5 anni ben spesi tra virgolette della mia vita. Ci mancherà, un po' mancherà nel mondo, cioè... Felice Shepard mancherà. Vai Marco, te il commento finale. Beh, è stata una grande saga, una saga che appunto, come ci diceva Giuseppe, dura da 5 anni. Una saga di 5 anni, esatto, sì. Madonna, è distruttiva. Una saga di 5 anni nel quale abbiamo... E finalmente siamo venuti. C'è stato... Anche se c'è stato bisogno di un extended cut, però vabbè. Tra l'altro, quindi... Comunque sì, abbiamo lottato, sparato, ammazzato, amato, distrutto, tradito, morto, rivissuto. Abbiamo fatto un po' di tutto in questi 5 anni. Insomma, sì, è un'esperienza che tutto sommato ce la ricorderemo. Mm-hmm. Ognuno a modo suo. Chissà quale sarà la prossima grande saga. Eh già, chissà quale sarà la prossima grande saga. Nel frattempo, comunque, io penso che a nome forse del programma in generale, per quello che abbiamo anche detto, anche se non tutti alla stessa maniera, probabilmente non trovandoci completamente in sintonia, rinnoviamo alcune perplessità riguardo a quelle che sono state le politiche di BioWare, di Electronic Arts, in generale a tutte le critiche insomma, che ci sono state, tutto il grande cancan, tutto questo movimento di cose e di situazioni che ci hanno poi spinto a fare il primo episodio di dietrologia videoludica, che probabilmente da una parte parzialmente, insomma, a noi a Mass Effect dobbiamo anche questo, perché se è nato questo nuovo programma con il quale andiamo poi veramente a sviscerare i temi in maniera abbastanza approfondita e probabilmente anche leggermente diversa da come si fanno magari in altre situazioni, quindi partendo da un punto di vista proprio veramente critico e negativo per arrivare poi magari a posizioni invece moderate e favorevoli, insomma, lo dobbiamo anche a Mass Effect, che comunque in qualche maniera ci ha dato lo spunto, perché proprio riflettendo su Mass Effect, su tutto quello che sono state il discorso, insomma, delle campagne, le petizioni contro il finale, insomma tutto il gran casino che si era creato, anche lasciandoci un po' perplessi, perché ci siamo domandati come può un videogioco oggi veramente creare una così forte campagna di opinione da costringere poi una company a correre ai ripari, perché poi alla fine questo, insomma, è stato. Detto questo, sì, anche a me mancherà Mass Effect. Spero veramente che non inizi una sequela di storie che in qualche maniera come dicono, come oramai si fa oggi, che si sciacalla veramente ogni storia fino all'inverosimile. Insomma, spero che questo non avvenga. Quando c'è il cadavere lì, mozzichetto io, dai. Perché il bello è invece avere la possibilità di dire che una cosa si è conclusa, si è conclusa bene, nel senso che hai un buon ricordo, esatto, che hai un buon ricordo, piuttosto che insomma vederlo zombeggiare in giro a carponi o a quattro dei bastoni, insomma, come diciamo spesso in multimanie. Posso dire una cosa però su Shepard, l'ultima cosa? Sì. Che Shepard è bravo, è forte, è cazzuto, è cristologico, si tromba tutti, però c'è una cosa che Shepard non sa fare: Shepard non sa ballare. E questi sono problemi poi. Questo è il grosso problema. Va bene, ragazzi, allora chiudiamo questa sezione e andiamo ai commenti finali. Benissimo, allora ragazzi, siamo veramente in chiusura, dobbiamo dire poi un paio di cose, perché ovviamente dietrologia videoludica va in pausa chiaramente per agosto, quindi si conclude questa sorta di mini prima stagione, perché poi alla fine questo è veramente il programma, è la puntata conclusiva con la quale poi vi salutiamo, vi diamo gli auguri insomma per questa buona estate, passate ovviamente un periodo, insomma, di ferie divertente, anche perché ci rivedremo a settembre e vedremo, insomma, di trovare una nuova versione, perché questo è un po' l'XP adesso, la prossima stagione sarà il Vista, sarà il Vista, sarà il Vista. No, vedremo di trovare, insomma, magari una configurazione più precisa, o magari anche delle alternanze, delle rotazioni, proprio perché ho visto che questo programma ha attirato molto l'attenzione anche di alcuni personaggi che mi ha fatto piacere, con i quali mi ha fatto piacere conversare, compreso Giuseppe, che tra l'altro è stato il primo ospite, insomma, della trasmissione, che poi magari potrebbe anche ovviamente ribadirsi la questione, anche perché ci sono dei temi sui quali sicuramente torneremo a parlare, soprattutto BioWare, ma anche Bethesda, insomma, ce ne sono tanti dei temi sui quali andremo a parlare, che sicuramente Giuseppe ne sa. Detto questo, abbiamo qualche piccolo commento per quanto riguarda ovviamente l'articolo che Stefano ha fatto sui trailer, ha fatto un interessantissimo articolo sul sito di dietrologia videoludica, dove ricordiamo piano piano questo sito sta diventando, vuole diventare un sito di critica, quindi fondamentalmente il podcast non sarà l'unico motivo per cui esisterà il sito, ma sarà un supplemento del sito stesso. Quindi insomma, se vorrete poi ovviamente contribuire, collaborare, commentare, a noi non ci fa altro che piacere. Chi è che ha commentato il sito, il post di Stefano? Ovviamente il Morgan, nostro feticcio Nemesi, che però insomma è ormai è diventato un nostro assiduo ascoltatore. E appunto, riguardando l'articolo di Stefano sui trailer ingannevoli, diciamo, chiamiamoli ingannevoli per usare un eufemismo, Morgan cita: per non parlare delle meravigliose copertine dei vecchi giochi per Commodore 64, dove tutto aveva parvenza reale, una solidità che la bidimensione non rendeva su schermo. Almeno oggi abbiamo mondi 3D, la telecamera rotante e lo shutai. Beh, io aggiungerei anche il fatto che, se vi ricordate i giochi del VCS, no, dell'Atari 2006, addirittura gli screenshot erano disegnati, cioè non erano quelli del gioco reale. Morgan però ha lasciato, ma questo è un commento un po' lungo, però secondo me vale un po' la pena dargli una letta e magari con Luigi anche insomma vedere se ci lascia spunti di riflessione, perché proprio sul sito di Italian Podcast Network, sulla stessa puntata di Dietrologia Videoludica, che vi ricordiamo è sia sul sito che sul feed, ma è anche sul feed centrale di Italian Podcast Network, ha lasciato sto commentone. Te lo lascio a te l'onore, che è chilometrico, Marco. Peccato che non c'è Stefano, sennò qui faceva un bel po' di allenamento. Sì. Allora, per iniziare ringrazio per la citazione del sottoscritto nell'ultimo episodio del post. Vi ricorderete ovviamente l'intro che è stato inserito nella puntata successiva, che oramai è definitivo. Ed è una cosa incredibile, ma si riferisce come a se stesso come a un anar, attenzione, per la situazione del sottoscritto. Quindi, e qui torniamo appunto nell'argomento della serata. Ecco, gli anar erano fighi come personaggi, un po' gatte morte, un po' gatte, sì, morte. Però era figo il linguaggio, la struttura, cioè il modo in cui, cioè, però è stato solo poco, vabbè, perché sono stati usati poco, vabbè poco, alla fine che cazzo facevano dei molluschi che stavano là, sì, vabbè che... perché scusa, di Yelkor, che praticamente poi in una missione ti dicevano pure che la fanteria Yelkor era tipo che si mettevano addosso i lanciamissili e facevano a mo' di carro armato vivente, sì. Mai visti però, cioè, vabbè. Dunque, episodio dall'argomento indovinato e sempre attuale, ed in cui le domande poste dal Pizzi portavano la discussione verso rivoli di discussione estremamente stimolante. Peccato che non sempre le risposte sono state all'altezza delle imbeccate del conduttore, che forse la compagine debba ancora un po' rodare in quanto a cameratismo e ritmo. Forse per quest'ultimo aspetto una pennellata in più di editing avrebbe aiutato? Sono sempre, non lo so. No, allora precisiamo, innanzitutto abbiamo parlato la scorsa puntata, Luigi, se ti ricordi, abbiamo parlato... Sì. Del rapporto tra publisher e stampa specializzata e sì. La critica fondamentalmente che fa Morgan, magari hanno fatto anche tanti altri, è che è stato un episodio poco coraggioso secondo alcuni, nel senso che non si è espresso onestamente magari alcuni pensieri. In realtà io non condivido questa cosa, cioè nel senso che anche se Dietrologia Videoludica parte da quel presupposto, che può essere un presupposto di critica negativa, non è detto che per essere coraggiosi significa che bisogna di so tutti di stronzi, so tutti di ladri, perché non era certo quella la nostra intenzione, chiaramente. Certo. È vero che Roberto è stato un po' democristiano, secondo me, insomma, su alcune risposte, cioè invece di sì e no cominciava a fare tutta una, costruiva delle cattedrali infinite, insomma, però vabbè, comunque andiamo avanti. Vabbè, ma sì, dai. Io penso che è come gli adolescenti, no? All'inizio si è arrabbiati con tutto e ci si prende con tutto, poi si diventa dei grandi saggi e alla fine quello che volevamo, con cui volevamo scagliarci contro, non ha più quel senso. E poi si muore prima. Perché noi siamo già dei grandi, no, saggi. Ma poi, cioè, secondo me l'episodio ha avuto senso così, cioè nel senso che è giusto, ma partire, sì. No? Cioè, se tu devi fare un'analisi, analizzi dagli aspetti potenzialmente negativi, cioè nel senso dal sospetto anche. È giusto anche partire dal sospetto, sì, perché sì, tramite sì. Il sospetto, ovviamente, su un ragionamento sensato e condiviso, alla fine in un modo o nell'altro si arriva invece a una posizione più equilibrata, che poi alla fine spesso e volentieri la verità sta nel mezzo, anche perché l'ideologia videoludica, ricordiamo, non esce mai con una risposta, con una posizione unitaria, perché noi siamo come che, esatto. Voyager, ricordiamolo, noi non diamo risposte ma soltanto domande. Per quanto riguarda il discorso dell'editing, e qui lo specifico subito, editare traccia per traccia 2 ore e mezza di trasmissione dopo che si è fatta una presincronizzazione, ricordando che molti non lo sanno, ma l'ultimo episodio ci abbiamo avuto veramente dei problemi con Skype che sono stati infiniti, non è molto facile. È chiaro che se Stefano Biggio, mentre che registra Dietrologia Videoludica, la smettesse di giocare a World of Warcraft, sarebbe sicuramente molto di aiuto. Ma insomma, ognuno durante la registrazione fa quel che fa, insomma, senza che, però insomma, dobbiamo comprare un po' di tassoni così lui si rilassa con la tassone. È vero, vai avanti. Sono sempre più convinto che una durata più breve avrebbe giovato all'episodio, ma qui, spero. Qui però si contraddice, perché a volte dice, chi l'ha detto che i podcast devono essere troppo, devono, no, essere infatti più brevi? Lì quello è generico, è questo che deve questo essere, qua doveva essere più breve, ok. Ma spero non riteniate le mie considerazioni come critiche fine a se stessi, bensì come pareri di un ascoltatore che apprezza tantissimo questo progetto e la volontà con cui viene portato avanti. No, infatti non è che, cioè, Luigi, io penso che comunque fino adesso ci ha sempre dato indicazioni abbastanza sensate, sì, no? Sì, ma ci mancherebbe, ma è giusto, insomma, valorizzare qualsiasi tipo di commento, e soprattutto di chi segue tanto ed è critico, non è un flamer o un diciamo un commentatore fine a se stesso, per cui facciamo tesoro. No, ma poi evidentemente lui oramai fa dei commenti strutturati, cioè io gli ho anche risposto poi dicendo che comunque vuoi o non vuoi non solo ne facciamo tesoro, ma spesso e volentieri poi ci riflettiamo anche sopra, no? Perché poi ci rendiamo conto noi stessi di dove stanno poi i nostri limiti, magari i nostri errori di una trasmissione così giovane, no? Che insomma alla fine c'ha, certo, due episodi standard più questo qua, che è uno speciale, quindi tre puntate fondamentalmente. È un DLC. Certo. Collegandomi. Sei morto. No, perché ho saltato un pezzo, non mi premeva a leggerlo tutto. L'episodio è molto godibile e dalla fine, dal brainstorming, è scaturita serie di spunti di riflessioni decisamente galvanizzanti. Collegandomi ad una domanda posta dal Pizzi, perché tu sei dal Pizzi. Io sono il Pizzi, sì. Ormai. Per me la rivista migliore degli ultimi anni è K. Bravo, grande, mitico. Così come tutte quelle curate dal gruppo, purtroppo defunto, Studio Vit. Perché non si sa, Studio Vit. E quindi videogiochi della Jackson, Zap e Zeta, riviste che godevano di un estro e una qualità, una maturità paragonabili a quelli che oggi può dare solo una testata come Edge, la cui versione italiana in mano a Metal Mark non era davvero male. Luigi Marrone, che ricordiamo è il nostro Vate, si chiedeva se vi fossero personaggi davvero rappresentativi ed autorevoli in questa industria dal punto di vista dell'informazione e dell'approfondimento. Io piuttosto mi domando se un settore così nuovo, che solo da pochi anni inizia ad avere un suo medioevo, possa già fregiarsi dei suoi saggi, data la sua giovinezza, che non le consente di poter annoverare molti titoli classici. Beh, secondo Morgan i saggi ci stanno, se no non farebbe tutti quei video su Luigi Marrone. Luigi, che gli rispondiamo? Cioè, il saggio. Ha tutta ragione, Il nostro caro medium deve essere ancora accettato a diverse strati, diciamo, della cultura, dell'intrattenimento. E purtroppo lo si vede soltanto come videogioco, ma è fuorviante di per sé chiamarlo soltanto videogioco. Cioè, ripeto, deve essere qualcosa molto molto più strutturato, molto più approfondito, molto più studiato, molto più diffuso. L'Italia non sarà la prima a muoversi, per cui ce lo scordiamo che fino a quando non avrà un consenso globale, planetario, più forte, più penetrato, l'Italia possa riconoscere il merito a questa forma espressiva. Quindi ritengo pienamente che di conseguenza una critica più strutturata, più approfondita e istituzionalizzata a questo punto è vista di cattivo occhio in un mercato in cui non si riconosce addirittura l'oggetto di cui si va a fare critica. Per cui io sono ancora per ciò che è classico dobbiamo stabilirlo noi, ciò che sono i parametri dobbiamo stabilirli noi che giochiamo, le definizioni dobbiamo ristabilirle noi, dobbiamo fare noi tutto il movimento di sdoganamento per il videogioco, che è un lavoro vero e proprio, che sì. Sì, sono d'accordo, cioè, Giuseppe, penso che sì sacrosanto, insomma, no? Sì, confermo. Vediamo il commento, ma possiamo anche finirlo, insomma, se vogliamo. La volatilità delle piattaforme che da una generazione all'altra permettono una fruizione immediata e parziale, emulazione dei titoli più vecchi, mina al sedimentare di una fruibilità adatta a denotarsi di un'idea antologica. Questo l'ha capito solo Luigi, adesso ce la spiega. No, in effetti non l'ho capito io, che vuol dire? No, ma magari ne parliamo alla prossima puntata. Ok, dici? Infatti. Okay. Vabbè, allora ragazzi, Giuseppe, mm-hmm. Giuseppe Saso, opinionista videoludico, dai qualche riferimento, insomma, anche perché ci siamo scordati all'inizio. Sì, vabbè, diciamo, io collaboro con diverse realtà, c'è il canale YouTube, eccetera. A questo punto però ho aperto un microblog su Tumblr, che è appunto il sito, è questo che vi sto linkando, comunque è facile, vitaingioco.tumblr.com, dove appunto la posto, diciamo, o immagini o comunque i video di YouTube, quindi comunque fa da aggregatore, un po' come Pinterest, per darti un'idea. Ah, figata, figata. Oh. Sì, sì, perché più che altro mi dava fastidio, insomma, tenere traccia, magari queste cose si trovano solo là. Allora, chi mi vuole seguire comunque può, diciamo, ha come hub principale questo, fondamentalmente. Ok, aggrega tutto, fondamentalmente. Sì, sì. Perfetto. E questo già è cosa buona e giusta. Insomma. Ah, ovviamente vi ringrazio nuovamente per l'ospitalità e soprattutto ci tengo come sempre a salutare il mio compatriota, nonché amico di vecchia data, Peppe, e nonché ovviamente vostro collega Peppe Scaletta, professor Jones. Ok, quando tornerà dal viaggio, esatto, non si sa da dove, esatto, perché io ogni tanto l'ho dirotto. Professor Jones di archeologia videoludica, ricordiamo, archeologia videoludica esce domenica. Domenica sarebbe oggi è 14, oggi è venerdì. 16. Ok, quindi il 16 esce archeologia videoludica. La prossima settimana, verso intorno al 18-19, uscirà invece questo episodio di dietrologia videoludica. Salutiamo che anche dirlo prima perché tanto. Lo so, infatti, non so perché lo sto dicendo. Salutiamo anche Luigi Marrone. Luigi Marrone Electronic Self, punto qualche cosa, Luigi. Punto com. Ah, proprio secco secco. Sì, punto blogspot. Io vi ringrazio ovviamente del tempo che dedicate, vi ringrazio della disponibilità e soprattutto, insomma, della competenza che mettete nelle cose che dite, perché comunque al di là di tutto noi ci scherziamo ogni tanto sopra, anche soprattutto con Luigi, che ricordiamoci la pagina Facebook Luigi Marrone Fan Club, andate a fare mi piace mi raccomando, cioè nel senso lo dico anche sì, scherzando, però è vero pure che comunque riuscire a fare dei ragionamenti sensati in un ambito come questo, come dice anche Luigi stesso, se volentieri può sembrare sia stupido che banale, ma in realtà stiamo parlando di un medium che non solo noi amiamo, ma che ha delle potenzialità anche nel futuro e che, come dice proprio Luigi stesso, appunto, speriamo di sdoganare. Ci vediamo a settembre, mi raccomando, come ho detto prima, passate belle giornate di vacanza, andate al mare, andate in montagna, state con i vostri familiari, ci rivediamo, baci a tutti e alla prossima. Ciao ciao ciao.